Grazie, mi viene data di offrire un modesto contributo alla buona riuscita di questa settimana, ma per essere sincero devo anche un ringraziamento per la possibilità che viene data di discutere problemi che mi interessano in modo particolare con persone che, avendo un'esperienza di ricerca che va oltre l'ambiente italiano, a mio parere possono dare un notevole contributo a chiarire o almeno a impostare certi problemi relativi a questa specifica riforma, importantissima riforma del Settecento che riguarda la proprietà e il tributo fondiario, ricerca che presenta lo stato attuale, come vedranno, come cercherò di dire, presenta dei problemi storiografici che non possono essere risolti a Milano o a Firenze o a Bologna, ma hanno certamente una risposta a Madrid e a Vienna. Non saprei dire se più a Madrid che a Vienna, ma certamente hanno oramai una possibilità di chiarimento con un ampliamento della ricerca stessa in ambienti diversi da quelli italiani. E premesso questo, dirò che cercherò di svolgere la relazione in due punti o in due momenti. Una che riguarda il catasto come fonte, il catasto meglio la rilevazione catastale, così come c'è stata tramandata, come fonte per ricostruire la distribuzione della proprietà fondiaria negli stati italiani del Settecento. E il secondo punto, il catasto invece come, non come rilevazione di dati, quanto piuttosto come processo che ha portato ad una riforma del sistema dei tributi negli stati italiani e quindi del suo inquadramento nel generale processo di innovazione o di riforme che vennero tentate negli stati italiani nella prima e soprattutto nella seconda metà del Settecento. Quindi mi sono permesso di allargare un momento il discorso oltre quello che è fissato dal tema in questo senso. Per quel che riguarda il primo punto, con qualche scusa che devo per un certo tecnicismo che è necessario, almeno in via introduttiva, per intenderci sulla questione. Primo punto, il catasto come fonte, vorrei dire essenziale, primaria, anche se non unica, per ricostruire, per fotografare la distribuzione della proprietà fondiaria negli stati italiani. Quindi, come loro comprendono, per ricostruire quello che è indubbiamente un aspetto centrale della vita economica e sociale delle società italiane nel Settecento, ma anche in periodi successivi, ovviamente. Faccio un semplice richiamo a qualche elemento che spiega questa importanza, che sostiene questa importanza dei catasti e quindi degli aspetti della vita economica che mediante i catasti sono ricostruiti. In primo luogo viene l'importanza dell'agricoltura come attività economica negli stati italiani e in genere l'importanza dell'agricoltura in tutte le società preindustriali. Dire importanza dell'agricoltura vuol dire importanza dell'attività sulla quale si centravano gli interessi, si centravano le aspettative, le difese e vedremo le resistenze, no? A tutto quello che era di innovativo nei confronti di questi interessi e di queste posizioni di potere. Quindi importanza dell'agricoltura come premessa chiarissima ad ogni discorso sull'importanza dei catasti. Importanza della proprietà, delle proprietà da un punto di vista sociale, della proprietà nobiliare, della proprietà ecclesiastica, della proprietà che chiamiamo per convenzione borghese, per dire la proprietà che non è né ecclesiastica né nobiliare, importanza della proprietà e del significato che la proprietà attribuisce alla terra, no? All'agricoltura, ma soprattutto alla terra come fondamento del suo potere politico e del suo potere economico, questo soprattutto verso la fine del Settecento, quando la concezione stessa della proprietà, il significato di proprietà muterà da titolo di potere politico a strumento, a mezzo di crescita e di arricchimento sul piano strettamente economico. E quindi l'importanza, della struttura sociale no? In cui la proprietà della terra, l'essere titolari di una proprietà, assume un significato che è chiaramente, insomma, tale da permetterci di interpretare, se non in senso totale, ma di interpretare mediante la distribuzione della proprietà, mediante la distribuzione per ceti sociali della proprietà, di interpretare o di conoscere meglio la società nel suo complesso, nel suo insieme. Più dei censimenti, mi permetto di dire, perché non ci si può illudere che in questa fase in cui la numerazione della popolazione, il censimento, è strumento imperfettissimo, limitatissimo, che al massimo può dare le quantità globali, può dare le grandezze generali, all'interno di questo non stabilisce nessun'altra possibilità di individuare le strutture sociali, la diversità delle posizioni professionali, la diversità delle posizioni sociali. I censimenti nel Settecento, le numerazioni di cui disponiamo, non ci permettono di arrivare a quello che è l'obiettivo di conoscenza della struttura della società. I catasti sì, invece, parzialmente, ma certamente sono la fonte più importante in questa direzione. E poi, per ultimo, l'importanza che deve essere attribuita, che è attribuita normalmente nelle nostre conoscenze, al tributo fondiario, come il tributo più importante, cioè la fonte più importante di cui dispone lo Stato per disporre dei mezzi finanziari necessari alla sua vita. Se l'attività economica più importante è l'attività agricola, se la terra è il bene più prezioso, se la produzione di ricchezza si incentra sulla terra, è naturale, è ovvio che sia il tributo fondiario più che gli altri tributi, il testatico, il tributo sulle feste, il tributo sui commerci, il tributo sulle attività mercantili, sia il tributo sulla terra, quello che veramente conta. E vedremo che l'importanza del catasto è legata a questa crescente importanza del tributo fondiario, cioè del prelievo che si accentra, no, sulla ricchezza che la terra dà. Naturalmente l'importanza del tributo fondiario determina l'importanza del catasto, perché se lo Stato si ripromette molto dal tributo fondiario, per lo Stato diventa di fondamentale importanza il determinare la base dell'imponibile. Proprio abbiamo solo 2 minuti di saluto del Presidente della Regione, mi dispiace. No, io poi riprendo. Oppure del discorso. Che ha tanto contribuito a questa iniziativa e gli ho già espresso anche la nostra soddisfazione, oltre alla nostra riconoscenza. Non abbiamo rassicurato che il suo appoggio ha avuto un risultato veramente positivo, perché veramente io credo che di questi giorni possiamo essere soddisfatti. Noi abbiamo impegnato tutta la nostra migliore volontà a questo proposito, e appunto vi dicevo il significato, lei vede qua la lista, abbiamo il futuro, forse già presente, è stato maggiore della cultura, cioè già dei giovani, Dio vi benedica, è vero, ma dei giovani che hanno già una maturità e una preparazione e che quindi sono in grado di sostenere questo colloquio, è vero, ad alto livello. E quindi noi abbiamo già espresso la nostra riconoscenza all'amico Prodi, è vero, e vogliamo veramente tutti esprimere la nostra riconoscenza anche alla vostra deliziosa Trento, che ci è stata molto cara, molti non la conoscevano ed hanno avuto veramente una impressione, non solo lo scenario, è vero, ma anche l'atmosfera della città, è vero, piena di sapore e così accogliente. L'amico Vandros, che forse vuole aggiungere qualche parola. No, non posso dire altro che veramente la cornice è stupenda. Io dal mio posto di osservazione qui, veramente ho sempre davanti a me questi magnifici, carini due signori qui, e quando batte il sole su di loro e dietro la montagna, è proprio una visuale magnifica. Noi abbiamo la fortuna di avere in primo piano due signore. Sì. Poi dietro lo scenario magnifico, che anche ci un po' si può dire una retribuzione, una consolazione per che stiamo in questi giorni con quel splendido, magnifico tempo che abbiamo qui rinchiusi a discutere con un lavoro veramente serio, anzi serissimo, e delle volte abbiamo, per esempio, l'altro ieri abbiamo avuto fra relazioni, traduzioni, se traduzioni pochi perché tutte e due, tutti capiscono le due lingue, ma insomma facciamo sempre certi riassunti per chiarire, perché è una cosa molto complicata, tecniche, espressioni tecniche, eccetera. Ad ogni modo abbiamo lavorato per 6 ore di quasi consecutive, solo interrotti da un passo di sopra dove si ha una ancora più bella vista su tutta la valle dell'Adige. Ci teniamo molto veramente a ringraziare di questa possibilità. No, dicevo, basta con i ringraziamenti, perché oltretutto non mi pare giusto. Io vi dico che sono io invece, a nome dell'Istituto Trentino di Cultura, a ringraziare voi, soprattutto, innanzitutto voi professori, professor Vandrusca, professor Valsecchi, professor Prodi, tutti coloro che hanno collaborato alla organizzazione di questo seminario. E salutare molto cordialmente voi che avete partecipato e che state partecipando a questo lavoro. Evidentemente noi come Istituto Trentino di Cultura, appunto per le finalità che ci siamo poste nel momento in cui è stato costituito questo Istituto di Studi Storici Italo-Germanico, siamo molto lieti di vedere che si è già arrivati adesso a questo primo seminario, cioè quindi ci si avvia decisamente ad una attività scientifica che è proprio quello che, insomma, da parte nostra si desiderava. Il fatto è la presenza così articolata tra italiani, austriaci, ho visto anche svizzeri che sono qui, e germanici, questo va ancora a dimostrare ulteriormente, direi, che i risultati che noi ci ripromettevamo si stanno raggiungendo, cioè questa vostra unione, trovarvi insieme a studiare, ad approfondire temi di questo tipo, ecco, è quello che noi desideravamo che si verificasse, e ci auguriamo evidentemente che andando avanti questo possa dare un contributo, sarà modesto nel quadro generale di tutto quello che si fa in Europa, ma un contributo appunto all'approfondimento di determinati temi storici, alla preparazione, eccetera, che presumibilmente, io per l'amor di Dio non mi azzardo a fare valutazioni di natura tecnica o men che meno scientifica, ma insomma così credo di poter dire senza sbagliare che è probabilmente uno dei sistemi migliori, perché le preparazioni possono essere più adeguate ai tempi e un pochino diverse, o comunque un pochino diverse, con possibilità migliori e diverse da quello che si aveva in passato, dove molte divisioni eccetera in definitiva poi si cadevano negativamente anche su quella che era la preparazione che così giovane che noi potevamo avere. Ecco, poi questo Trento, se mi dite che siete stati anche abbastanza bene, il tempo così abbastanza favorito, anche se non è stato dei migliori, perché il settembre trentino in genere è migliore di quello che avete potuto godere qui, però non è neanche stato così cattivo da doverlo. Oggi e ieri, un pochino, ma se no, in genere queste settimane erano state scelte molto bene, anche dal professor Prodi, eccetera. Ma così, comunque siete trovati abbastanza bene, anche questo mi fa piacere, e così penso, mi auguro, sono certo che possa contribuire a vedervi ancora di frequente qui, voi professori ed anche gli alunni, scusate, perché lui è ad alto livello, ecco, la terminologia sbagliata, vi chiedo scusa. Ma comunque mi auguro che anche tra di voi, coloro che per la prima volta forse sono venuti a Trento, abbiate potuto conoscere questa piccola, modesta, però con antiche tradizioni, questa città, che lo possiate portare un certo ricordo, e che comunque sappiate che questa è casa aperta oggi e domani a voi e a tutti coloro che vogliono dedicarsi a questi studi, e per quel contributo, professor Prodi, grande o piccolo, che possiamo dare come istituto, l'istituto di Trentino di Cultura, sia come istituto di Italo Germanico, sappiate che avete un punto di riferimento, ripeto, non so quanto, auguro valga, ma comunque avete un punto di riferimento per l'oggi e per il domani. E con questo vi auguro che possiate proseguire e concludere felicemente e proficuamente i vostri lavori, dicendovi ancora una volta che questa è anche la soddisfazione, oltre che vostra, è la soddisfazione anche nostra di amministratori. Grazie e guardiani saluti a tutti. Mando l'importanza di alcuni aspetti più generali della realtà economica e sociale degli stati italiani del Settecento che, come dire, spiegano l'importanza della rilevazione catastale, del significato della rilevazione catastale, l'importanza dell'agricoltura, l'importanza della proprietà fondiaria, l'importanza nella struttura sociale quindi della proprietà, l'importanza del tributo fondiario, cioè del tributo per eccellenza, della fonte più importante di prelievo di cui dispone lo Stato in questo momento. Dire importanza del tributo fondiario vuol dire importanza del catasto, cioè della misurazione, della stima, della valutazione, del valore dell'attività agricola o della terra, secondo dei punti di vista, e quindi grande significato di tutti i tentativi che vengono fatti in questa fase per cercare in qualche modo di conoscere il più esattamente possibile, non alla perfezione ovviamente, di conoscere il valore dell'attività agricola, il valore della terra. Di qui quello che è tecnicamente il passaggio importantissimo dall'estimo al catasto. Il tributo fondiario non è un'invenzione del Settecento, ovviamente, non è una novità. Il tributo fondiario esiste da secoli. All'origine del tributo fondiario, però, si dà fino a tutto il Seicento, si dà un tipo di valutazione del cosiddetto imponibile che è molto approssimativa. L'estimo è in genere la denuncia del proprietario, è la semplice presentazione da parte del proprietario di una descrizione del valore della sua terra, del valore dell'attività agricola che si svolge sulla sua proprietà. Il catasto è invece una valutazione che vuole essere oggettiva, o meglio una valutazione che è compiuta dalla stessa pubblica amministrazione con strumenti suoi, con personale suo, con tecniche che essa stessa domina, è una valutazione che viene compiuta per la prima volta direttamente, non dal proprietario, con il concorso del proprietario, ma non soltanto dal proprietario. Quindi a prima vista se ne coglie subito la grande importanza, non solo, ripeto, dal punto di vista tecnico, ma con tutte le implicazioni che questo ha, perché da questo momento la parola del proprietario non è più una parola ritenuta valida, la dichiarazione del proprietario è ritenuta un elemento di stima e di valutazione, ma quello che conta è la valutazione, la stima che viene compiuta dall'apparato della pubblica amministrazione. Sotto questo profilo si apre un capitolo importante della storia dell'amministrazione, perché per fare l'estimo non è necessario avere una struttura amministrativa specifica. Per fare il catasto bisogna disporre di una propria struttura specifica di competenza nella rilevazione, nella stima, nella valutazione. Loro conoscono questa evoluzione, non vale la pena di insistervi, no? Il passaggio dalle valutazioni di tipo estimale alle valutazioni di tipo catastale. È certo comunque che è con il Settecento, è con la prima metà del Settecento, con il modello classico, il perfetto modello, si può dire, ripetuto e ripreso anche nell'Ottocento, il modello teresiano, di catasto in senso stretto, cioè di valutazione e di stima, che viene compiuta dall'alto, viene compiuta per una decisione del principe, con una sua struttura, con un suo organismo apposito, diretto a questo scopo. Già qui c'è un fatto innovativo di grandissima importanza, che sconvolge tutti i quadri precedenti, tutte le pratiche precedenti. Ecco, a questo punto devo far presente, ma la cosa sono un richiamo naturalmente, è che non è più possibile a questo punto parlare di catasto, bisogna parlare di catasti, perché i modelli quindi i metodi, quindi le tecniche, sono profondamente diverse nei vari stati italiani. Dicevo prima, il modello perfetto, quello che sarà ripreso poi dallo Stato italiano unitario, in pratica non solo dallo Stato italiano ma dagli Stati europei, è il modello teresiano, è quello che viene attuato nello Stato di Milano, che ha anche questo grande merito di essere il primo vero catasto universale. E qui non posso non fare riferimento ad un problema che è tecnico ed è politico nello stesso tempo. Il grande nemico, il grande ostacolo nei secoli precedenti di ogni forma di accertamento dell'imponibile e quindi di determinazione del tributo fondiario era l'esenzione, cioè la lotta che viene condotta da coloro che sono interessati a non contribuire e che quindi si rifiutano, si oppongono, no, ad ogni forma di accertamento dell'imponibile per essere evidentemente esentati dal pagamento del tributo, a vari titoli, la nobiltà da una parte, la proprietà ecclesiastica dall'altra, sono i due grandi avversari di ogni forma di rilevazione per universalità del territorio, di accertamento del valore dell'attività agricola e del valore della terra per le ragioni che sono fin troppo note. Il modello teresiano, il modello che viene applicato a partire dal 1718 e che ha la sua fase, direi, di completa attuazione tra il 718 e il 733 nello Stato di Milano, è un modello di rilevazione catastale che si fonda su alcuni principi tecnicamente innovativi, è universale, vuol coprire tutto lo Stato ad essere misurato e ad essere valutato. Le esenzioni verranno accettate successivamente, ma per la prima volta disponiamo di una rilevazione che è completa di tutti i territori dello Stato. È geometrico particellare, non è un piccolo particolare tecnico questo. Non si accerta il valore, non si stima la proprietà nel suo complesso, la proprietà che fa capo a Tizio o a Caio. Si accerta all'interno della proprietà, si valuta e si stima ogni singola particella di cultura. E quindi la cultura a prato diversa dalla cultura a seminativo, la cultura a seminativo diversa dalla cultura in cui ci sono piantagioni arboree. Non dimentichiamo che nel catasto teresiano, già nella prima fase, si arriverà a numerare le piante di gelso, una per una. E di ogni singola particella, unità geometrica, si darà una valutazione che è diversa a secondo del numero dei gelsi. Il gelso è la pianta, è la cultura arborea più importante, perché il gelso è la bachicoltura è la seta è l'oro, è il prodotto più importante del commercio degli stati settentrionali, e non solo di quelli settentrionali. Si arriva a numerare le piante. È universale, è geometrico particellare. E poi è per stima che tiene conto e vuol tener conto di un insieme di elementi economicamente importantissimi. Il prezzo dei prodotti e quindi le possibilità che si hanno di vendita dei prodotti e di ricavo dei prodotti stessi. E permette anche di vedere, questo come fonte è molto importante, permette di vedere non solo come, cosa si produce, ma come lo si produce. E quindi permette di gettare uno sguardo anche all'interno dell'organizzazione aziendale, cioè di come in pratica l'unità di proprietà è gestita, come è condotta in pratica, cioè senza fare riferimento qui agli aspetti di natura contrattuale, ma in pratica si riesce a cogliere attraverso il catasto che accerta la distribuzione delle culture, no, dentro all'unità di proprietà, il tipo di produzione, se è una produzione monoculturale, se è una produzione a più culture, quali culture sono preferite rispetto ad altre. Questo è il modello, è la perfezione, e questo sarà il modello che scatena anche certi tipi di resistenze, proprio per questa sua capacità di arrivare il più vicino possibile al reale valore della terra e dell'attività produttiva. E poi ci sono tutti gli altri modelli che sono decisamente meno perfetti, fino ad arrivare al catastonciario dell'Italia meridionale, che ha più dell'estimo che non del catasto, è più vicino, cioè, ad una valutazione approssimativa, quindi che ancora largamente concede, non dico tanto all'esenzione, ma concede a quella genericità che è tanto cara al proprietario. Perché è ovvio che più la valutazione è precisa e più il proprietario è messo alle corde, il proprietario deve, sa, no? Che il calcolo del tributo avrà un rilievo, avrà un riferimento più o meno preciso a secondo che la rilevazione, l'accertamento è stato più o meno preciso. Un'altra osservazione è sempre un po' di natura tecnica, oltre a questa sulla varietà. Immagino che questo è importante, varietà di modelli di rilevazione catastale vuol dire anche profonda diversità del valore dei dati che i catasti danno. Se il catasto teresiano dà una fotografia quasi perfetta dell'agricoltura dello Stato di Milano, ovviamente i catasti onciari, i catasti estimi, danno una fotografia, si potrebbe dire, in modo così un po' sfumata, in cui i contorni sono molto meno precisi. Da un punto di vista dell'interesse dello storico dell'agricoltura, dello storico dell'economia, ma anche dello storico che è interessato alla conoscenza della distribuzione della proprietà per ceti sociali, per classi di ampiezza, per tipi di cultura, questo diventa decisivo. Il catasto di modello teresiano dà veramente la possibilità di ricostruire tutti quegli elementi. I catasti che non hanno queste caratteristiche danno solo parzialmente questa possibilità di ricostruire la distribuzione della proprietà per classi, per ampiezza, per culture e così via. Un'altra precisazione riguarda, faccio riferimento ad una polemica che è abbastanza recente tra alcuni storici italiani che si sono interessati a questi problemi. L'altra precisazione riguarda ciò che i catasti possono offrire, ciò che concretamente i catasti settecenteschi possono offrire, ciò che non possono offrire. Gli storici sono uomini e vanno per entusiasmi e per delusioni. Ogni tanto ci si illude che una fonte, soprattutto una fonte come questa, faccio una piccola parentesi, le fonti sono soggette alla dispersione, lo sanno tutti, no? Il catasto è una fonte che è soggetta a una dispersione minore di altri tipi di documentazione, e non a caso. Può andare perso un carteggio, può andare perso così, l'interesse ci può essere alla conservazione, ma può venire meno in questo momento. Una comunità, una società preindustriale è fermamente attaccata. E infatti lo vediamo nel Settecento, ma lo vediamo anche successivamente. Con gli eserciti, con gli austriaci che si ritirano, no, con l'invasione dei gallo-sardi nel 1933, tutte le carte del catasto vengono messe nelle casse e come cose preziosissime, i proprietari milanesi avrebbero voluto, dire la verità, che le casse andassero distrutte e ci hanno anche messo qualche cosa, hanno sperato, le casse non vanno distrutte, vanno a Mantova e poi da Mantova ritornano a Milano. Vengono riaperte, Pompeo Neri le ritrova, le legge, ne fa la famosa e splendida relazione sullo stato del censimento dello Stato di Milano del 51, ma le carte sono lì, perché le carte sono una cosa importante. Nella concezione borghese della proprietà, seconda metà del Settecento e d'Ottocento, il catasto ha un valore probatorio, come sanno, determina la proprietà, fin qui è mio, qui comincia il tuo. E quando si afferma il concetto individualistico di proprietà, il catasto diventa una cosa molto importante e quindi è una fonte, è un tipo di documentazione per la quale si debitano cure particolari. Purtroppo questo non è impedito quanto discussione. Ma il fatto poi, ecco, questo volevo dire, il fatto che questa fonte si sia conservata offra una certa continuità, tra l'altro, possibilità anche di confronti purtroppo limitati, ha creato delle grosse speranze, delle grosse illusioni. in parte, cioè l'illusione che attraverso questa fonte fosse possibile ricavare moltissimo intorno alla struttura economica, ma anche intorno alla struttura sociale. Ecco, qui bisogna dire che se il catasto dà certi elementi, soprattutto quando è perfetto, voglio dire, quando è condotto con rigore, in qualche altro caso, quando non è condotto con rigore, ma anche per natura sua, alcuni elementi non li può fornire. E per esempio non può fornire un dato che è importantissimo per un'agricoltura come quella italica. Non fornisce quasi niente di notizie intorno al rapporto tra chi possiede la terra e chi la coltiva, il rapporto contrattuale. Al catasto questo non interessa, eppure questo è un dato importantissimo, perché gran parte della proprietà fondiaria non è condotta direttamente. C'è un proprietario e c'è un conduttore. Un conduttore che si chiama mezzato, che si chiama corono, che si chiama affittabile, che si chiama enfiteuta, ma non è il proprietario. E a un certo momento quello che è decisivo nella struttura della società è questa posizione. Pensino per esempio agli effetti dell'appropriazione di quello che è il prodotto, che cosa va all'uno e che cosa va all'altro, quindi le effettive possibilità e disponibilità delle categorie sociali, possibilità di reddito, possibilità di spesa, possibilità di consumo, possibilità di risparmio e di investimento. Questo il catasto non lo dà, è inutile illudersi di ricavare, perché per natura sua tende a fissare certi elementi e non certi altri. Però, e mi ripeto un momento, certamente può dire molto sulla distribuzione della proprietà per classi sociali, anche qui con una certa approssimazione. Noi non andiamo mai oltre chi studia queste cose con una certa attenzione, ma anche con una certa prudenza, non arriva al di là delle grandi classificazioni, nobiltà, proprietà nobiliare, proprietà ecclesiastica, proprietà di altri o proprietà borghese. Andare al di sotto di questo diventa tremendamente complicato. Forse sarebbe possibile con delle indagini complementari che individuassero le singole persone, dei proprietari, la loro posizione, distribuzione ancora della superficie tra colto ed incolto. Questo è molto importante, terra sfruttata, utilizzata, terra non utilizzata, perché il processo successivo è un processo di ampliamento della superficie coltivata e coltivabile rispetto alla superficie non coltivata o non coltivabile date certe tecniche. La distribuzione per classi di ampiezza. Ecco, mi permettano anche qui una piccola parentesi. Quante volte noi usiamo delle generalizzazioni, che sono gli strumenti del nostro mestiere, ma che sono poco fondate. Quando noi diciamo prevale il latifondo, prevale la grande proprietà, questo vale per esempio nei discorsi che si fanno per certe aree della penisola italiana, l'area meridionale per esempio. Che cosa intendiamo? Che cos'è la grande proprietà? È quella che supera i 100 ettari o è quella che supera i 500? In concreto, data l'economia del tempo, come si distribuiva la proprietà e all'interno della proprietà l'unità aziendale, che non è la stessa cosa? Che cos'è che era considerato grande proprietà, media proprietà, piccola proprietà? Non la stessa cosa che noi oggi consideriamo grande, media e piccola. Noi ricorriamo alle generalizzazioni, diciamo qui prevaleva il latifondo, là prevaleva la grandissima proprietà, ma poi in pratica di questa nozione non abbiamo il corrispettivo di natura economica, quella che ci permette di capire il significato nel tempo che aveva la grande, la media, la piccola e la piccolissima proprietà. Comunque il catasto permette questa conoscenza fotografica e poi naturalmente permette la conoscenza, dicevo prima, per grandi linee, della distribuzione per culture. No? Le culture più importanti, le culture meno importanti. Cosa vuol dire possedere, avere, essere titolari di una proprietà e non far corrispondere a questo il tipo di cultura? Possedere un pascolo non è la stessa cosa che possedere una vigna. Possedere un gelsetto non è la stessa cosa che possedere un prato artificiale o una risaia. Economicamente parlando, si tratta di realtà completamente diverse. Il catasto consente, entro certi limiti, questa conoscenza anche della distribuzione delle culture, quindi del significato economico della proprietà e con completamenti, come si diceva prima, dei rapporti, del contenuto dei rapporti di natura contrattuale agraria. Cosa non permette è già stato detto. Mi resta ancora un punto prima di passare a, così, a riassumere il risultato dei nostri studi per quel che riguarda appunto la conoscenza che abbiamo della distribuzione della proprietà fondiaria negli stati italiani. E un punto che voglio chiarire in premessa al punto successivo. Perché nonostante questa importanza della fonte catasto, la letteratura, gli studi, le ricerche nel nostro ambiente, io parlo dell'ambiente italiano ovviamente, sono molto modesti. Basti dire loro che a questo momento qui non esiste neanche un inventario, un bilancio meglio, dei risultati ai quali si è pervenuti attraverso le ricerche che per esempio la scuola bolognese di Dalpane, con Zangheri, Porisini, Claudio Rotelli, hanno portato per quel che riguarda il loro ambiente, ai risultati a cui ha portato la ricerca nell'Italia settentrionale, negli stati settentrionali, i lavori di Romani per esempio, o per l'Italia meridionale, quelli di De Rosa, quelli di De Marco, di Izzo, Assante. Noi abbiamo queste monografie, non abbiamo neanche un tentativo di bilancio dei risultati a cui hanno portato queste ricerche in fatto di distribuzione della proprietà fondiaria ricavata dai catasti. Perché questo? La risposta è banalissima, ed è che affrontare un catasto è cosa che spaventa. È l'unica risposta che si può dare. Ce n'è una più remota, se consentono, ed è una risposta di natura strettamente culturale, è legata all'indirizzo storiografico, agli interessi di tipo storiografico. Certamente si preferisce lavorare su certi testi, lavorare sugli indirizzi generali, si preferisce stare sul generico, questo bisogna dirlo, anche perché scendere al di sotto del generico vuol dire affrontare, posso fare una piccola parentesi strettamente personale, il catasto teresiano è conservato, la rilevazione catastale teresiana è tutta conservata nella parte che ci interesserebbe nel nostro discorso all'archivio di Stato di Milano. Sono 10.000 cartelle non inventariate. Personalmente, essendomi messo da tanti anni oramai in questa direzione qui, sto portando avanti da 4 anni, anzi adesso stiamo entrando nel quinto anno, un lavoro di utilizzo dei registri che indicano questi dati che ho dato, relativi allo Stato di Milano, per la parte della pianura e per la parte della collina. Ho rinunciato alla montagna, perché nella montagna, come tutti sanno, la proprietà è così tremendamente divisa che il numero dei proprietari sale, raggiunge numeri incredibili, insomma, per cui crea dei problemi tecnici veramente complessi. Essendomi messo in questa avventura, in questo momento io ho schedato 88.000 proprietari dello Stato di Milano, della Lombardia austriaca. 88.000 proprietari, per ognuno dei quali è stata fatta una scheda, che solo attraverso il calcolatore elettronico potrà dare qualche risultato, non certamente le mie possibilità e le mie capacità. Risultato al quale sono arrivato con l'aiuto di una buona squadra di ricercatori che hanno trascritto, ha predisposto le schede. Il dottor Coppola ha fatto un lavoro per il primo catasto, il catasto di Carlo V, per una zona della Lombardia meridionale. Ha lavorato da solo, ha schedato da solo, e a un certo momento, Carlo V, il suo è stato un esperimento per la prima metà del Cinquecento, non quello del Carlo VI. Non quello di Carlo VI, ma l'ha tentato da solo, con un catasto certamente più semplice, infinitamente più semplice del catasto teresiano, e si è scontrato con alcune grosse difficoltà. Io credo che la spiegazione della relativa indifferenza che ancora si ha per l'importanza che non è attribuita come dovrebbe essere a questa fonte è di natura tecnica. Affrontare un catasto è cosa che supera le forze di un singolo ricercatore. Da soli non si può, aggiungerei non si deve, oltre che non si può. Sì, non si deve perché ci sono problemi di natura proprio prettamente tecnica, agronomica da una parte, ma poi tecnica di calcolo, che richiedono un'equipe, richiedono la collaborazione di tecnici, richiedono il calcolatore elettronico, cioè richiedono l'utilizzo di certi strumenti di cui oggi finalmente possiamo disporre. In genere i giovani ricercatori però quando vanno in archivio, come dire, preferiscono quelle 3-4 filtre che danno subito qualche buon risultato, ovviamente, siamo tutti consapevoli di questo. E invece con l'età si possono anche affrontare avventure più complesse e più lunghe nel tempo. Io parlando con altri colleghi di storia economica che lavorano in altre parti d'Italia, so che proprio su iniziativa, su spinta di quello che è il maestro per noi di questi tipi di lavori, cioè D'Alfano, no? Si stanno facendo rilevazioni, si stanno facendo lavori di questa natura, cioè a carattere universale. Loro pensino che per esempio per la Lombardia, al di là del lavoro di Pugliese, no? Ma Pugliese come ha lavorato? Ha lavorato per Campione. Ha preso tre comunità, alcune comunità, zona di collina, zona di pianura, e sulla base di questo ha ricavato alcune proporzioni. Ma noi stiamo accertando che tutto questo è infondato, perché basta che scegliere una comunità che ha certe caratteristiche. Nella comunità vicina le caratteristiche del terreno sono completamente diverse e le proporzioni saltano. E quindi il metodo per campione non è opportuno. Il metodo per campione può portare a dei risultati disastrosi, può portare cioè a falsificare, a deformare profondamente quella che è la realtà che si vuole vedere. Quindi questo è una spiegazione naturalmente non simpatica, ma ovvia, doverosa, insomma, di questa arretratezza dei nostri studi, delle nostre conoscenze, su un punto, su un aspetto della vita economica, sociale e politica del Settecento, a cui anneghiamo poi una grandissima importanza. Ecco, ciò detto, e direi quasi a giustificazione delle poche cose che dirò a conclusione del primo punto, distribuzione della proprietà fondiaria fornita dagli studi sui catasti, quel che posso dire sui risultati dei nostri studi sono sostanzialmente questi. Intanto resta confermato quello che è così nelle conoscenze degli storici economici di 7 ed 800 e purtroppo anche di 900 in parte, cioè le profondissime diversità esistenti tra le varie agricolture italiane. I catasti più che mai confermano questo. Non ha senso parlare dell'agricoltura italiana. Al limite non ha senso neanche parlare dell'agricoltura regionale. L'agricoltura lombarda vuol dire agricoltura di pianura, agricoltura di collina, agricoltura di montagna, con delle diversità incredibili da tutti i punti di vista, dei prodotti, della dimensione, della dimensione delle unità poderali, delle dimensioni di proprietà, dei rapporti contrattuali, delle figure, del tipo di imprenditore che lavorava la terra, radicali di difformità. A distanze ravvicinate, in aree abbastanza omogenee dal punto di vista amministrativo. I catasti confermano questa varietà, questa eterogeneità delle agricolture italiche di 700 e poi di 800 e successivamente. Comunque, certo, è possibile a grandi linee individuare delle aree. L'area settentrionale, la proprietà pubblica, per esempio, esigua, con prevalenza della proprietà privata, con un certo equilibrio tra la distribuzione della proprietà per classi sociali, ma anche qui con molta attenzione. Nella Lombardia certamente un equilibrio tra la proprietà nobiliare, quella ecclesiastica e quella borghese, in certe zone una prevalenza già nel Settecento della proprietà di tipo borghese, cioè non nobiliare e non ecclesiastica. Un equilibrio maggiore in Piemonte e invece uno squilibrio più accentuato nel Veneto, nelle zone vette, perché qui la proprietà nobiliare ha ancora un grande rilievo rispetto agli altri tipi di proprietà. Per quel che riguarda la classe di ampiezza, io mi rifiuto, non credo sia possibile neanche indicare delle linee generali. Certamente c'è una connessione tra zona geografica e distribuzione per classi di ampiezza. La pianura tra classi di ampiezza, cioè, Classi di ampiezza della proprietà. Quindi proprietà che stanno nella classe davvero, per esempio, a 5 ettari, proprietà che stanno tra i 5 e i 10, tra i 10 e i 20, tra i 20 e i 50, oltre i 50 e così via. C'è una correlazione, questa è ovvia, tra tipo di terreno nella pianura, la terra migliore, la proprietà più ampia, le classi di ampiezza più ampia, nella collina, terra meno buona dal punto di vista produttivo, proprietà più ristrette, più limitate, più frazionate. Andando verso la montagna, la proprietà frazionatissima del piccolo campo, del piccolo orto. Comunque, ecco, se si possono individuare delle zone, sono queste. Zona settentrionale con queste caratteristiche. Zona dell'Italia centrale, in cui la proprietà pubblica a vario titolo, no? A vario titolo è sia delle comunità, come dei demani, del principe o delle università. Queste aumentano rispetto alla proprietà privata. Nelle zone centrali e meridionali aumenta l'incolto rispetto al coltivato. Nelle zone settentrionali nel Settecento praticamente tutta la terra coltivabile è coltivata, l'incolto è piuttosto modesto perché l'interesse in questa direzione è già stato piuttosto pronunciato, mentre si scende man mano dal centro al sud, le aree non occupate produttivamente, ci sono qui alcuni problemi, il pascolo naturale per esempio, dove collocarlo? Il pascolo naturale sanno tutti cos'è, questo va messo tra il colto o l'incolto. Certo, se è sfruttato col gregge può essere messo tra il colto e non tra l'incolto, ma se è abbandonato va considerato nell'incolto. Il bosco, se se ne raccolgono i frutti è nel colto, se non se ne raccolgono neanche i frutti va collocato nell'incolto, o va collocato tra quello che non è sfruttato, non è utilizzato. Queste superfici aumentano decisamente man mano che si scende verso l'area meridionale, nella quale si registra, area meridionale, uno squilibrio molto forte per quel che riguarda la distribuzione per categorie sociali, voglio dire che prevalgono nettamente alcune, nobiltà, proprietà nobiliare, proprietà ecclesiastica, ma soprattutto qui abbiamo gli estremi nella distribuzione delle classi di ampiezza. Lungo le coste la piccolissima proprietà, all'interno la grande, grandissima proprietà. In Sicilia, in modo particolare, il latifondo, la proprietà sterminata, di cui neppure il proprietario conosce l'estensione, no? O la conosce molto, molto approssimativamente. Naturalmente un discorso ancora più difficile da fare è sulla distribuzione della terra per quello che riguarda i tipi di cultura, perché qui veramente la perfezione maggiore o minore del catasto è decisiva. Certo, laddove si è praticato il catasto geometrico particellare, Savoia, Stato di Milano, Bolognese, il modello teresiano, qui conosciamo la distribuzione delle culture e qui notiamo la nota varietà a secondo delle zone agrarie, no? Dalla cultura di tipo montano alla cultura di tipo collinare, praticamente niente pascolo e niente prato, e molta cultura arborea, alle culture delle zone migliori di pianura, riso, alternanza grano turco e prato. Qui conosciamo, ecco, questo tipo di distribuzione. Nelle altre zone questo diventa molto difficile, se non per aree molto ristrette che vengono studiate, come dire, in profondità. Per questo è possibile una certa ricostruzione. E difatti abbiamo delle monografie interessanti, ma sono per piccole zone. Quindi la possibilità di avere una carta generale, una fotografia generale, a questo momento non si dà per quel che riguarda questi aspetti. In conclusione del primo punto, io credo di poter dire che, di aver dimostrato che i materiali catastali, i registri, le mappe, gli elenchi dei proprietari, sono veramente una fonte importante per ricostruire la struttura della proprietà fondiaria, in primo luogo. Devo ripetere qui che molti risultati positivi ricaveremo se accanto a questa fonte affronteremo fonti, come dire, che sono parallele. per esempio i trasporti. Loro sanno che quando la proprietà è iscritta nel catasto iniziale, poi quando ci sono i passaggi di proprietà sono registrati. Catasto più trasporto tavolare danno fotografia più movimento. Quindi il catasto dà, a periodi distanziati nel tempo, dà le fotografie. I trasporti danno i passaggi, le evoluzioni, che danno la conoscenza dei passaggi di proprietà dal proprietario nobiliare al proprietario non nobile, al borghese che acquista, per esempio. Danno i passaggi, danno le disintegrazioni di proprietà, le grandi proprietà che si dividono e si spaccano e passano a nuovi proprietari. Il catasto successivo fissa la fotografia al periodo successivo. Però se tra un catasto e l'altro inseriamo la fonte rappresentata dagli atti notarili, e più che gli atti notarili, e oltre agli atti notarili, le registrazioni di passaggio, noi abbiamo quello che è pure molto importante, cioè l'evoluzione, il cambiamento dentro alla distribuzione della proprietà fondiaria, con un'avvertenza che non si tiene mai abbastanza presente, e che se c'è una cosa che cambia in modo tremendamente lento, almeno per questi periodi, per le fasi preindustriali, se c'è una cosa che cambia molto, molto lentamente, è la distribuzione della proprietà fondiaria. Perché può essere mascherato, tra l'altro, il cambiamento. Soprattutto perché questi cambiamenti, poi in effetti, quando ci sono, hanno ripercussioni tali di natura sociale, di natura politica, che danno luogo a grossi cambiamenti. In effetti il primo grosso cambiamento è quello di fine Settecento, per gli stati italiani, l'età di influenza francese, i beni nazionali, no? La vendita dei beni nazionali, l'espropriazione prima, la vendita dei beni nazionali. La prima vera radicale azione che muta la struttura della proprietà fondiaria, che opera dei trasferimenti da un proprietario ad un altro tipo di proprietario. Io voglio dire, non sto esagerando, abbiamo un margine. Un po' posso, perché sì, dire la verità, avrei ancora qualche cosa. Quanto è preferibile ancora? Ma c'è un grandissimo margine. Io ho un difetto terribile. Un difetto terribile che sono. No, posso andare avanti a qua. Vorrei dire che quando loro non ne possono più, mi fanno un segno. Abbiamo il margine. Ecco, grazie. Il secondo punto, che esorbita un po' dal titolo così come rigidamente è stato fissato. Il primo punto riguardava la distribuzione e abbiamo detto quello che potevamo dire in coscienza sulla base delle nostre conoscenze. Mi interessava però con loro, e ripeto, qui il discorso si fa molto più problematico, e qui il discorso si fa proprio di richiesta di una discussione, di una partecipazione, di un contributo nel presente e nel futuro, dal quale io mi riprometto molto. Secondo punto è il catasto non più studiato come fonte, non più studiato come documentazione di un certo tipo che può offrire certi dati e quindi certi elementi, il catasto sotto il profilo tecnico. No, non più il catasto, ma l'operazione catastale. L'operazione catastale come parte di quella più complessa operazione che è il tributo fondiario, impostato su basi nuove, come parte delle riforme del Settecento, soprattutto della seconda metà del Settecento. Qui chiedo scusa se solo per completezza richiamo cose note. La presenza poi di competenti, quali professor Vandro, il professor Vassetti, su queste cose mi intimidisce un pochettino, quindi io proprio dico le cose essenzialissime, richiamo le cose essenzialissime. La nostra storiografia sul Settecento ha attribuito notevole importanza nel quadro delle riforme alla riforma del tributo fondiario. E il professor Vassetti ha sostenuto fondatamente e per primo che l'imposizione di un nuovo tributo, di un tributo fondiario su una base nuova attraverso il catasto ha voluto dire soprattutto lotta alle future intermedie. Questo è il grande significato. La storia del catasto teresiano, soprattutto nella prima fase, è la storia di un conflitto esplicito tra Vienna che vuole un certo ordine razionale dei tributi e gli interessi locali che non lo vogliono, perché ci nuotano, chiedo scusa dell'espressione, magnificamente dentro, nel disordine, nella confusione dell'ordinamento tributario, il più forte è tranquillo. I grandi proprietari fondiari milanesi, quando mandano l'ambasciata a Vienna all'inizio per cercare di bloccare tutto, la mandano con tutta la documentazione, ma dentro nella documentazione, e c'è quella famosa cartellina dove sta scritta tutta la filosofia del ceto proprietario italico, dice: il nuovo sistema di tributi che si vuole introdurre è certamente una cosa splendida. Mettiamo le mani avanti, è certamente una cosa bella. Ha un difetto, dice, è una cosa nuova. Ora, le cose nuove, per natura loro, sono sempre pericolose. Non so se mi sono chiesto. Le cose nuove, anche quelle belle, quelle che razionalmente si riconoscono belle, hanno un difetto. E, siccome sono nuove, possono dar luogo a qualche complicazione. Quindi dice, lasciamo tutto come prima, diamo le cose vecchie che almeno sono sicure e noi le dominiamo tranquillamente. Quindi questo grande significato, che secondo me resta dimostratissimo anche dagli studi più recenti, l'introduzione del nuovo del tributo fondiario su base nuova è un attacco a tutte le strutture intermedie. Zangheri più recentissimamente, in quel lavoro La storia d'Italia edita da Einaudi, ma su quella sua cosettina, sui catasti proprio, arriva a sostenere qualche cosa che tiene conto di certe tendenze storiografiche, soprattutto di base marxista da noi. Dice, attenzione, il catasto e il tributo fondiario non è soltanto l'attacco alle strutture intermedie, è anche il tentativo di affermazione del ceto borghese. Perché? Perché in sostanza chi aveva un reale interesse a introdurre un sistema tributario rispondente alla realtà e quindi a mettere in crisi chi ci aveva giocato dentro? Il nuovo ceto sociale che vuole acquistare terra, ma per acquistare terra bisogna mettere in difficoltà chi la possiede, perché la venda, perché altrimenti non si può comprare la terra se non c'è chi la vende. E da questo punto di vista è indubbio che la razionalizzazione introdotta dal catasto e dal nuovo tributo fondiario mette in difficoltà. Quindi questa è ancora una tesi parzialmente da dimostrare, più un'intuizione direi, però ha un suo significato. E poi un terzo tipo di interpretazione, di spiegazione che è stato dato è che in effetti di tutte le riforme, la riforma del tributo fondiario attraverso il catasto, in buona sostanza, ha costituito la riforma delle riforme, perché tutte le altre, o gran parte delle altre, avevano bisogno di questa razionalità, avevano bisogno soprattutto di che dalla razionalità lo Stato ricavasse mezzi finanziari nuovi e accresciuti per fare anche altre cose. Lo Stato del Settecchi che vuol diventare uno Stato moderno, che ha bisogno quindi di una sua struttura amministrativa, che ha bisogno di mezzi finanziari. E i mezzi finanziari non possono che venire dal tributo fondiario, perché vengono dalla terra, vengono dall'agricoltura, eccetera, eccetera. Ora, io credo che questo sia oramai riconosciuto unanimemente, che questo insieme di interpretazioni, insomma, no? Sono consolidato e riconfermato da tutti i nostri studi. Mi permetterei con grande cautela e con grande timore, come dicevo prima, soltanto di fare a questo punto un'osservazione, di fare un rilievo e in pratica di introdurre il primo problema da discutere. Se loro guardano la cronologia dei catasti italiani, si accorgono che la gran parte di questi si sposta nella seconda metà del Settecento. Pochi stanno nella prima metà del Settecento. Tra questi però sta il catasto teresiano, 718-733. Ecco, un punto che io mi permetto di sottoporre alla loro attenzione, alla loro discussione, è questo. E questo vale soprattutto per il catasto teresiano. Quello che sta scritto in genere, dice che si ripete continuamente, è che È la seconda metà del Settecento quella decisiva, agli effetti del trionfo del nuovo tipo di tributo e al del trionfo del catasto. Ecco, io mi permetto di non essere d'accordo. Io mi permetto di ritenere che, soprattutto per il catasto teresiano, è la prima metà quella che conta. E cioè, è in questa fase, quella in cui venne costruito tutto. Nella seconda fase è avvenuta una cosa che, secondo me, ha dato luogo a qualche distorsione. Siccome nella seconda metà si fa l'esaltazione, si è finito per attribuire alla seconda metà del Settecento la lucidità, perché questo è quello che mi interessa mettere in evidenza, la consapevolezza. Chi ha fatto queste operazioni era consapevole di quello che faceva. Era consapevole nella seconda metà del Settecento o era già nella prima metà del Settecento? È in pratica il discorso che riguarda i meriti e i demeriti di Pompeo Neri, che non è una cosa da poco. Pompeo Neri è certamente, a Pompeo Neri va attribuito il grande merito di aver reso, come dire, noto e conosciuto il capolavoro del catasto milanese. Ma quando Pompeo Neri scrive la relazione nel 51, il catasto e il nuovo tributo fondiario, nella sua essenza innovativa, è qualcosa ancora da mettere in atto o è qualcosa che è praticamente già tutto costruito? E che Pompeo Neri trova già quasi tutto costruito, che porta poi certamente a compimento per le operazioni che mancavano, per la sua pubblicazione, eccetera, eccetera. Ecco, io personalmente sono dell'opinione, modestissima opinione, discutibilissima opinione, che metto sul tappeto, perché questo è il nostro lavoro e questo è quello che conta, cioè mettere in discussione i propri dubbi e i propri problemi di ricerca. Io sono modestissimamente dell'opinione che, per quel che riguarda il catasto teresiano, è la prima fase quella che conta e non tanto la seconda. La seconda ha avuto una capacità di diffusione di certi risultati, di certi significati della riforma del sistema dei tributi e di quello fondiario in modo particolare, che certo si è avvalso di una cultura, di una riflessione molto più matura. Questo non ci sono dubbi. Ma qui c'è un punto importante. Il catasto nella prima fase, il catasto teresiano in modo particolare, è affidato a figure di modestissimo rilievo. Prima mi veniva ricordato il matematico Marinoni. Il matematico Marinoni è una persona molto modesta, è un matematico abbastanza importante nel suo specifico campo, ma con i catasti non ha niente a che fare. De Miro è, come dire così, è un funzionario, diremmo noi, di medio livello, insomma. Tra l'altro non è neanche molto abile nel tenere in mano la penna, insomma, non ha una prosa di quelle, non ha certo la prosa di Pompeo Neri. Però sono questi gli uomini che pezzo per pezzo sono i geometri, per esempio, che misurano e che riferiscono problemi pratici, e da problema pratico in problema pratico concreto costruiscono questi edifici. Verranno dopo quelli che teorizzeranno. Però è in loro questa grande capacità, che è stata soprattutto nello Stato di Milano, è stata attraverso i lavori della prima giunta, questa loro capacità di costruire un edificio che poi altri tenteranno di ripetere, più o meno felicemente, tenteranno di portare a conclusione, tenteranno di replicare, no? Ma sulla base di un'esperienza, mi ripetitino una cosa, che in Piemonte sono i geometri licenziati dalla giunta, perché oramai inutili, che vanno a fare il catasto Boncompagni è fatto con dei tecnici misuratori che sono presi dallo Stato di Milano. Non mi risulta ancora se siano arrivati più in là, non credo, anche perché il catasto fondiario non richiedeva la presenza di un certo tipo di personale tecnico. Non c'è dubbio che è l'utilizzo di un'esperienza precedente sul piano tecnico che dà luogo ai lavori. Il catasto Boncompagni è dopo Bologna. È a Bologna. A Bologna, sì. È stato studiato da Zangheri e dalla scuola di Zampani. Quindi questo è un primo punto che mi sembra importante. C'è poi c'è un'altra grossa questione sulla quale credo che ci sia meno problematicità e meno contrasto, quindi, o divergenza di opinioni. Ed è il punto che riguarda la natura del catasto e del nuovo impianto di tributo fondiario e il suo collegamento con con l'illuminismo, con lo spirito del Settecento. Io sono convinto, come sono convinti tutti quelli che hanno scritto queste cose, che il collegamento, come dire, ideale è evidentissimo. Cito alcuni aspetti che ci permettono subito di intenderci. Il catasto è costruito su fondamenti razionali, ed è proprio dell'illuminismo, questo amore per la razionalità. C'è la razionalità nel voler misurare fino in fondo, nel voler accertare. È quasi la premessa della statistica, di quello che sarà poi l'evoluzione della rilevazione statistica come strumento di governo e di amministrazione. E ancora, ed è il collegamento con il Settecento, la lotta al particolarismo, il catasto che vuole essere conoscenza della situazione universalmente presa, senza ammettere distinzioni, senza ammettere esclusioni. È animato da un ideale di uguaglianza. Non c'è dubbio che coloro che hanno pensato ai catasti, hanno cercato in qualche modo di realizzarli, avevano in mente che questo era uno strumento che permetteva l'uguaglianza tributaria. Non ci sono riusciti, certamente non potevano riuscire, ma hanno dato un colpo chiarissimo alla disuguaglianza che nel tributo aveva uno dei suoi fondamenti. E poi, questa è della letteratura della seconda metà del Settecento, il catasto si fonda su una spietata denuncia di tutti i mali dell'antico regime, e questo è tipico del Settecento, la condanna di tutto quello che è venuto prima, dell'irrazionalità, del groviglio, degli interessi, della non capacità, come dire, di disporre le cose secondo un certo ordine. Dentro nella letteratura che ha affrontato queste questioni, riferisco ancora, se vogliono, alla nota relazione di Pompeo Neri, ma anche alle cose di minor valore e meno note, i lavori del Broggia, ecco, questo attacco, anche le cose di Danesi, però, no? Dei personaggi minori, Gian Rinaldo Carli, certamente un personaggio minore per tanti riflessi, nel quale la denuncia di tutti i mali precedenti è fatta in modo spietato come giustificazione del passaggio al nuovo ordine, quindi a un nuovo catasto, a un nuovo tipo di imposta rispetto. Su questo secondo punto credo che possiamo essere abbastanza d'accordo. Il primo forse meno, ho notato, ma discuteremo poi sui meriti della prima fase e della seconda fase. Mi avvio alla conclusione con problemi invece, certamente, che sono certamente tali, e che mi permetta anche questi di sottoporre alla discussione. Studiando i processi di catasto, di attuazione dei catasti e del nuovo sistema di imposte, si nota una cosa, che a mio parere è molto importante non solo per la conoscenza del Settecento, ma anche di periodi successivi. Tutto questo avviene dall'alto, avviene per via amministrativa, avviene per esplicita volontà del principe e trova delle fermissime e spiegabilissime resistenze dal basso, ma non è tanto questo che volevo mettere in evidenza. I catasti calano dall'alto, hanno una finalità chiaramente tributaria. Si fa il catasto per avere un maggior gettito di imposta. Questo è chiarissimo, è evidentissimo in tutte le motivazioni, esplicite e non esplicite. Però il catasto sembra avere, nella letteratura corrente, nelle opere anche più recenti, anche un altro significato di stimolo allo sviluppo dell'agricoltura. E questo è il caso classico della confusione tra quello che è stato scritto da coloro che lodavano quello che stava avvenendo nella seconda metà del Settecento e noi altri che non ci possiamo permettere di queste debolezze. Perché tutti conoscono il discorso che proprio Gian Rinaldo Carli fa. Il catasto è fattore di sviluppo dell'agricoltura. Perché? Per una ragione semplicissima. Fissa la fotografia del valore della terra in una certa data, promette un intervallo di 30 anni prima di fare un'altra valutazione e quindi in pratica premia il proprietario che, avendo valutato la propria proprietà 100, ne aumenta il valore da 100 a 150. Perché è sicuro che per l'intervallo di 30 anni la base dell'imponibile resta immobile. E quindi il ragionamento fino. Il catasto premia, dice già Rinaldo Cardi, il proprietario attivo e condanna il proprietario passivo, il proprietario che lascia scendere il valore al di sotto di 100, il proprietario che si disinteressa, no? Quindi si dice funzione di stimolo. Ecco, ma io mi permetto di fare questa osservazione, di porre questo problema. E questa cosa l'hanno detta dopo, l'hanno scritta dopo, ma l'avevano in mente anche prima o non l'avevano in mente prima? Io ho dei dubbi che l'avessero in mente prima. Io ho la netta convinzione che avessero in mente solo una cosa, il tributo fondiario e le entrate dello Stato. Punto e basta. E dopo, dentro nello spirito del tempo, è venuta fuori l'esaltazione che viene ripresa anche in epoca francese e viene ripresa soprattutto dopo da Cattaneo, ma in un clima completamente diverso per la Lombardia da Carlo Cattaneo, il quale esalta il valore del catasto teresiano, no? Il catasto che promuove lo sviluppo agricolo. Io ho qualche dubbio. Il dubbio mi viene guardando per esempio altri ambienti italiani. Perché se uno va fuori dalla Lombardia austriaca, che cos'è che non trova? Non trova il progresso agrario. Trova il catasto, ma non trova il progresso agrario. Trova dei catasti meno perfetti, non c'è dubbio. Trova dei catasti meno incisivi, meno sollecitanti, proprietari, meno stimolanti, perché meno perfetti. Ma trova anche una società che è del tutto indifferente al progresso agricolo. Non si lascia intimare. E quindi nella finalità non c'era il progresso. L'hanno teorizzato così, come hanno teorizzato molte altre cose. Hanno constatato che in virtù dell'operare di altri fattori, questo sì, il clima di pace, la lunga pace, l'allargamento dei mercati, l'accrescersi di un certo tipo di domanda, ha favorito l'agricoltura. Io ho dei dubbi veramente fondati che, per esempio, la crescita di produzione di seta in Lombardia e nelle aree settentrionali sia stata determinata dal catasto e non invece dal fatto che sul mercato europeo la seta aumentava di prezzo e quindi conveniva venderla e produrre. Perché questa è la vera ragione, tutto il resto non conta, conta molto poco. C'è la stabilità, il senso di sicurezza, un imponibile che resta fermo, questa è una buona cosa, ma non è uno stimolo, non è per niente uno stimolo. E di questo punto, ripeto, io mi permetto di mettere le cose in forma problematica proprio perché anch'io desidero, attraverso la discussione e la sollecitazione di questi temi di ricerca, ripeto per il presente ma anche per il futuro, se permettono, di sentire, di avere opinione e perché no, magari di invitare qualcuno ad interessarsi di queste cose, se già non lo sta facendo. Un altro problema ancora, ripeto sono quasi alla fine, è il problema delle resistenze. Il problema delle resistenze. Resistenze certamente di natura economica. Prevalentemente di natura economica. E per le ragioni dette prima, il catasto è un nuovo tipo di tributo, vogliono mettere ordine. Chi non è interessato a questo ordine oppone resistenza. Chi vuol vincere a tutti i costi insiste, è il caso di Vienna che insiste a Milano. E supera tutti gli ostacoli, ed attua il catasto, ed attua il nuovo tipo di vita. Quindi c'è un rapporto qui tra stabilità del potere, autorità e riuscita, maggiore o minore, del catasto stesso. E c'è anche un tipo diverso di risposta della società nel suo insieme. La società toscana risponde in un modo diverso dalla società lombarda, dalla società milanese. La società meridionale è quella che risponde ancora meno di tutte. E qui si offre quindi un parametro per misurare l'attitudine delle società italiane al progresso. Questo è il punto. Il catasto indirettamente, la riforma del sistema dei tributi, offre allo storico che voglia vedere quello che per noi oggi è fondamentale storiograficamente, capire, almeno per chi studia gli ultimi due secoli, capire perché certe società sono progredite e certe non sono progredite. È importante questo punto, l'attitudine nel tempo, allora, a rispondere a certe sollecitazioni. a rispondere a certi interessi, ad avere certe aspettative, ad atteggiarsi nei confronti del principe e della sua volontà, a secondarlo, non a secondarlo. È da poco un problema di struttura, del singolo che si tratta della loro condizione interna, no? E probabilmente, senza probabilmente dire scusa, è antecedente, largamente antecedente al Settecento, quindi è orientato in un modo piuttosto che in un altro. E poi ancora un ultimo problema. La riforma dei catasti e la riforma del sistema dei tributi e del tributo fondiario in modo particolare appare veramente priva di sostegno dal punto di vista dell'elaborazione dottrinale. È incredibile come la scienza economica, la scienza delle finanze in modo particolare, il ramo scienza delle finanze, quindi la scienza dei tributi, abbia minimamente assecondato lo sforzo nel tempo e anche successivamente, almeno subito dopo. Cioè le operazioni di questo tipo, le operazioni catastali, l'impostazione del nuovo sistema del tributo fondiario, il tributo principe, il tributo più importante, praticamente lasciato un silenzio quasi economista, soprattutto gli specialisti del secondo tributario. Addirittura in qualche caso per i fisiocratici presenti li ha trovati ostili al catasto, li ha trovati ostili all'imposta del tributo fondiario, li ha trovati ostili ad un tipo di organizzazione di tutti i tributi che si facesse leva essenzialmente sul tributo fondiario. Come si spiega questo? Perché c'è da una parte un'opera che sembra essere strettamente tecnico-amministrativa, rilevare, stimare, misurare, riordinare, con tutte le conseguenze sull'amministrazione, no? Da una parte, con certi risultati certamente positivi, e dall'altra parte c'è questa non rilevanza sul piano finale dello studio, e che effetto ha avuto questo? Nel non sfondamento, quando questo, come molto frequentemente è accaduto, si è verificato. Che importanza ha questo mancato collegamento, questo relativo modesto collegamento tra il lavoro fatto, la messa a disposizione di tutti questi dati, di tutti questi elementi, tutte queste possibilità di modificare, e la non riflessione sull'importanza che questo poteva avere? Se loro hanno occasione o possibilità di andare a vedere tutto quello che nell'ambiente italiano è stato scritto nella prima metà dell'Ottocento, su fino all'unificazione e dopo l'unificazione, la famosa relazione del Messedaglia, quando lo Stato italiano decide nell'80, alla fine del decennio 80, decide lo Stato italiano di rifare il suo catasto per tutto il territorio nazionale e decide di adottare il modello teresiano, il modello milanese, e lo adotta, perché Messedaglia adotta quel modello universale geometrico particellare che diventa il catasto italiano, che ci ha messo mezzo secolo per essere compiuto, perché tra la fine dell'80 siamo arrivati a dopo la prima guerra mondiale, prima di avere il catasto finito, il nuovo catasto del regno d'Italia. Bene, in quella relazione c'è questa osservazione, che un patrimonio importantissimo di lavori, un patrimonio di intuizioni dal punto di vista della stima, della valutazione, dell'impostazione del tributo fondiario, praticamente non è stato valorizzato, non è stato studiato. Questo ha fatto una storia dell'Ottocento, certamente. Però qui c'è qualche cosa che riguarda anche la prima e soprattutto la seconda metà del Settecento. Il fatto, ripeto, che il tutto sia proceduto per vie che non hanno comportato quel supporto di riflessione e di interesse specifico della scienza economica che meritava invece il lavoro che è stato compiuto. Io chiedo scusa se così per la mia esposizione fosse problematico e in qualche caso un polemico, ma ho ritenuto l'ho ritenuto proprio sulla base dei miei interessi, no? Io ho questi dubbi, ho questi interessi di conoscenza e di approfondimento, vedo queste zone vuote, insomma, vedo anche queste contraddizioni che mi sono permesso di esporre. Io mi auguro di aver dato un piccolissimo contributo alla discussione, al lavoro della settimana e poi anche di questo. ringraziare lo storico, lo specialista, e sulla seconda parte, il capato come operazione, il collega, nelle sue conseguenze. Passato da estimo a capato, non implica soltanto una diversità di valutazione, non più la dichiarazione del proprietario, ma l'accertamento del fisco, ma una, l'ideato, il collega, una incidenza politica e sociale veramente notevole, principio sia pure non apertamente enunciato, ma implicito, della preparazione delle poste, del pagare secondo, in proporzione all'accertamento. La esenzione diventa l'eccezione, mentre era la regola, è vero, ed era legata al vecchio sistema. Professor Berinelli ha posto alcuni quesiti. Ha sottolineato l'elemento cronologico. Dice, noi gravita considerare il fenomeno riformatore sulla seconda metà del secolo. Qui, per quanto riguarda i catasti, è vero, è la prima metà del secolo. Ma questo sarebbe naturalmente essere fondato sul campo più sapere. Questa è la sua domanda. Qui qua che adesso forse possiamo un po' fare un intervallo e lei risponde. Forse è meglio che lei risponda adesso, perché sono cose concrete, perché se altrimenti è anche più. Se permettono, rispondo prima alla signorina su questioni tecniche, diciamo, perché poi ci sono qualche questione di fondo. Ma signorina, guardi, le cose per quello che riguarda, se capisco bene, lei è interessata soprattutto allo Stato di Milano, quello che è avvenuto nello Stato di Milano, dove si è verificato appunto questo esempio noto con tutte le caratteristiche richieste, insomma, innovative. No? Ora lei dice come avveniva la tassazione, che entità aveva, che entità. Ecco, alla base del catasto stava questo ragionamento. Intanto quello che si vuole valutare, che si vuole stimare come base dell'imponibile, la base dell'imponibile è quella piattaforma, diciamo, di valutazione sulla quale applicare proporzionalmente poi l'imposta, variandola naturalmente di anno in anno a seconda delle esigenze. In altre parole, è la stima di ciò che la proprietà, uso un termine scorretto ma per intenderci, vale. Non vale commercialmente, vale per la sua intrinseca capacità di produrre. Va bene? Quindi si tratta di andare a vedere che cosa la terra dà in un certo periodo, cosa ha prodotto, come è stato valutato il prodotto, che estensione ha, che consistenza ha, per dire, in una comunità avendo una certa superficie in cui esistono 10 proprietari, qual è il valore attribuibile a ciascuna proprietà, ma un valore, ecco il punto, fissabile sulla base di un parametro stabile. Il parametro stabile era lo scutato, cioè ad ogni proprietà veniva attribuito un valore che era fissato in scudi. Lo scudo catastale non è una moneta, è un puro parametro sul quale rapportare poi il tributo. Come avveniva l'operazione poi? Si procede ancora, chiedo scusa anche qui un po' della terminologia, in queste fasi il tributo fondiario è applicato per quotità. Cosa vuol dire? Vuol dire che il principe fissa la quota di entrata globale. La quota di entrata globale poi, che è determinata dalle sue esigenze, deve essere ripartita. Questo era sempre accaduto. Solo che prima come andavano le cose? Il principe diceva: il gettito quest'anno deve essere di 300.000 scudi. I poteri subordinati ripartivano con un risultato, che in effetti a pagare il tributo erano coloro che non potevano scaricarlo su nessuno. Questo è ovvio. E tra il tributo fissato, 300.000 scudi, e l'effettivo pagamento c'era un divario che poteva andare per esempio da 300 a 500. Perché? Perché si cominciava a chiedere 500 al livello più basso e poi si dava al principe 300 e negli stadi intermedi coloro che riscuotevano tenevano una parte e quindi si appropriavano. Il principe questo lo sapeva e sapeva che una buona parte del tributo andava persa in questo modo e creava delle situazioni di ingiustizia, perché la ripartizione era fatta dai più forti a spese dei più deboli. Nel nuovo sistema in ogni comunità era reso pubblico il sommarione con il relativo registro e la relativa mappa di comunità, dalla quale veniva descritta l'effettiva consistenza e il valore di ogni singola proprietà e accanto l'indice. Nell'archivio di Stato di Milano, le posso indicare anche la cartella, c'è dentro questo grosso registro a stampa pubblicato nel 760, cioè reso ufficiale nel 760, dal quale risulta che chi possiede nel comune X un territorio arativo, no? Più un territorio vignato, più un altro territorio arativo, che dà complessivamente tot vertiche, è stato valutato 5 scudi. Accanto viene il proprietario, il cui verrà 7, 10, a seconda della diversità. Esatto, esatto. Quando c'era il problema della ripartizione, la cosa veniva meccanicamente. Perché se la quota totale era di 300.000 scudi, la ripartizione poi per province, all'interno delle province per comunità, avveniva meccanicamente, perché lei capisce che la somma era uguale a 100, come nel percentuario. Lei immagini che lo scutato fosse una percentuale. Lei ha il 3, il 15, il 22, il 37, bastava poi prendere la somma assegnata alla comunità e dividerla e veniva la quota che ciascuno doveva pagare, che non era uguale tutti gli anni, perché era diversa a secondo della quota fissata dal principe, però certamente aveva questo dato di oggettività, che uno pagava sempre in proporzione di quello che era stato valutato in un certo momento, per la cronaca tra il 21 e il 23, che sono gli anni centrali della stima, la prima fondamentale operazione della giunta di Miro e di Cavalieri. Ma non viene ancora applicato, o viene già applicato? No, no, questo è il punto, questo è il punto, questo è il punto. Dopo verrò al suo problema che è centrale. Quindi questo è il problema. Una cosa alla quale io non posso rispondere, in questo momento non può rispondere nessuno, è come dire la consistenza rispetto al patrimonio. Il principe Litta dice: che cosa pagava di tasse? Lo sappiamo che cosa pagava. Lo sappiamo certamente, dal 760 in avanti nei registri di pagamento c'è scritto qual era la sua. Però nessuno ha studiato il suo patrimonio, il rendimento del suo patrimonio. Se avessimo delle monografie di questo tipo, no? Le grandi famiglie, ad esempio, le loro proprietà, i loro redditi, e potremmo capire quanto incideva la tassa sul reddito, perché questo è il problema. Lei vive di un certo reddito, la tassa viene portata via la festa. Com'è la festa? È piccola, è grossa, che proporzioni ha? E questa è una cosa che non si può generalizzare, bisogna farla per gruppi, per categorie, per persone, insomma. No? No, è che no, siamo fuori da là. Non è un problema di quote, è un problema di pura proporzione tra quello che deve essere pagato da tutto lo Stato a quello che deve essere pagato all'interno da ogni comunità, e siccome lei come proprietaria è registrata in una certa comunità, pagare la proporzione della quota assegnata alla comunità. È un meccanismo discutibile, naturalmente, che è stato poi superato, no? Non certo noi oggi procediamo in questo modo. Ma allora sembrava il massimo di giustizia, perché all'interno di una comunità erano possibili i confronti. In la verità, i confronti sarebbero stati possibili anche fuori dalla comunità. E una delle cose che il ceto proprietario lombardo ha impedito fino all'ultimo, è stato, come dire, la concentrazione dei titoli di proprietà. Mi spiego. Il principe Litta possedeva 37 comunità, diciamo l'ipotesi. Lui pagava la quota sua di spettanza in ognuna delle comunità. Quello che sono riusciti ad impedire era che le sue proprietà globali confluissero in un'unica valutazione, perché ciascuno di loro voleva poter pagare separatamente, perché in questo modo pagava meno. Questo è una cosa. Si sono battuti fino all'ultimo. Io ho trovato in archivio di Stato la corrispondenza relativa alla fase post-applicativa, dalla quale risulta che i responsabili dell'ufficio del censo tentavano di mettere giù degli elenchi complessivi e non riuscivano, perché glieli distruggevano, glieli mangiavano, hanno fatto di tutto. Tentati, fino all'arrivo dei francesi, questo non riesce. Le dirò di più, non viene fatto neanche in epoca francese questo, e non viene fatto neanche successivamente. Cioè noi non possediamo un elenco dei contribuenti in testa ai quali figura tutto quello che possedevano nell'ambito dello Stato. Ci risulta solo, andando comunità per comunità, cosa possedevano nelle singole comunità. Prego, te. Certo, le notificazioni. Però con la sostituzione del proprietario e la sostituzione di altre due persone che stanno fare dell'ambiente della risposta dell'operazione e esplodivano un esplodito di una situazione di una. Ora, in questa situazione che vedi un quadro che è già più ampio. Però lei sa che la giunta ha buttato via tutte queste cose, le ha riconosciute false tutte, come sono le denunce dei redditi personali, tutte false, perché era abbastanza facile erano tutti interessati a mettersi d'accordo. Quello che prevale è l'altro principio, il principio che è il principe, assumendo lui coloro che fanno le misurazioni e andando a prenderle all'estero, tra l'altro, neanche in casa, perché i misuratori sono svizzeri, tedeschi, francesi, non sono italiani. O essere italiani da altri stati. Da altri stati, ma piuttosto lontanini, possibilmente un po' lontani, insomma, in modo che non nascano problemi. Sì, certamente, ma... Nella prima parte. Sì, sulle notificazioni... No, le dirò di più, Serena. Nella stessa fase di ricostruzione delle stime, le notificazioni non sono tenute buone. Quindi le notificazioni sono del 19, e ci sono alcune, sì, qualcuna che era mancata, perché tra l'altro non le avevano fatte tutte, ma la giunta ha proprio accertato che non valeva la pena di prenderle in considerazione. Ah no, ma allora sono un'altra cosa, sono le richieste di, ho capito, i corpi morali, i corpi di arti richiedevano per l'attribuzione delle tasse interne questi tipi di notificazione, ma non hanno un valore censuario, non sono totali. Sì, perché per il noto motivo della sistemazione peroniana sono finito di dentro, servivano anche agli uffici in attesa che nel 760 si applicasse il risultato del catasto, sono andati avanti applicando i vecchi criteri. cioè fino al 760 non avendo il catasto, hanno applicato la ripartizione con i vecchi criteri. Quindi come facevano? Ai corpi, alle corporazioni, il problema, davano... Il problema era un altro. Dicevo, in questa situazione, noi ci troviamo di fronte a una legislazione globale, proprietà nucleare, attività mercantili, sì. Attività mercantili, appaiono superare il limite della singola comunità. Ora, invece, è veramente interessante che in questo secondo momento la stazione sia ripartita in queste comunità, che è la cosa che è il tema che è rimasto certo, si sì, contava la residenza della comunità. Certo. Ecco, però vorrei insistere su una cosa: quello che differenzia tutte queste rilevazioni dalla rilevazione catastale è che quello catastale è universale, cioè coglie in un momento tutti i redditi. Ecco, all'altra domanda, se esistevano incentivi, direi di no. L'incentivo, quello teorizzato da Carli e dagli altri, era nel fatto stesso della rilevazione e della fissazione ogni tanto del valore della terra. Questo era l'incentivo. Ne potevano essercene altri, su base catastale. Se poi lei mi chiede se nel quadro delle riforme della seconda metà del Settecento il principe si sia anche preoccupato di incentivare l'attività agricola e lo abbia fatto. Ecco, aspetta, allora questo... No, questo è centrale, questo, per il catasto c'è solo questo, cioè l'avere la certezza che per un lungo periodo la base dell'imponibile non sarebbe stata modificata, anche se il valore della terra aumentava, per cui lucrava la differenza, questo è il punto. L'altra domanda, se sapevano come sarebbero stati spesi, apre un capitolo amplissimo. No, niente di tutto questo, certi bilanci erano pubblici, però la nozione che lei ha di intervento economico, di intervento in campo economico, tutta moderna, insomma, non ha nessun riferimento con il passato, insomma, no? Se il principe ha interesse a promuovere lo sviluppo, in questo periodo per alcuni versi lo ha, non procede certo attraverso la politica, come dire, della spesa pubblica, per esempio, la politica degli investimenti e altre cose, no? Avviene per la prima volta, per esempio, Pietro Leopoldo lo fa poi verso la fine, che mette il bilancio pubblico, sì, e lo fa discutere. Lo fa discutere, ma questa è una cosa proprio poco prima della rivoluzione. Sì, sì, sì. Penso però che la signorina avesse in mente quello che è oggi il comportamento dell'operatore pubblico, che intervenendo direttamente attraverso la manovra della spesa, no? Beh, questo è già un punto, sì, sì, sì. Poi il problema è se i soldi venivano spesi nel Ducato di Milano o se venivano mandati a Vienna. Questa è anche una cosa molto importante. Certo. Non so se ci sono stati fatti degli studi su questo. Sul bilancio. Diciamo, noi in genere su quello che dal ricavato di questo tributo fondiario veniva speso nel Ducato di Milano e quello che veniva diciamo mandato a Vienna. Wir errechnen 1% von Reinvestitionen, die wir mit allen 25% Steuer aufkommen. Volete che lo traduca? Silvia Cuccia che ha il suo libro a fine dell'Ancien Régime, dice che nel periodo fra il 90 e il 96, già col principio della guerra di coalizione del 92, il 40% veniva speso, trasportati all'estero per, appunto per le spese militari, che però servivano anche per la difesa del Ducato di Milano, mentre solo un 25% veniva veramente reinvestito nel Ducato di Milano. Il 40 e 25. Eh sì, che cosa è questo? Che cosa è la differenza? Ma se mi temerei se sei un po' il resto sono dell'amministrazione. Ah, l'amministrazione. Sì, però cose ricostruzioni organiche di lungo periodo non ci sono, per tutto almeno la seconda. Esatto, non si può dire. Ecco, non so se Elena se ho risposto alle sue, ecco, per le altre questioni di fondo che sono state poste. Ecco, io ho citato la tesi del professor Zangheri per dovere di completezza, anch'io sono dell'opinione che si tratti così di una... suggerimento per un'indagine che però ha come deve avere come precedente uno studio sulla struttura sociale che mette in luce l'esistenza e secondo me la non esistenza, ma su questo conveniamo, della struttura sociale degli stati italiani di una borghesia, insomma. Quindi la cosa già cade per la premessa stessa. I tre problemi che mi pone il professor Vandruska, dunque, su questo più che un'idea di uguaglianza fosse un'idea funzionale, proprio tutta funzionale, insomma, cercare di colpire tutti per avere il meglio, per avere il più. Ecco, anche se anch'io sono d'accordo, insomma. Quello che li scandalizzava era certamente l'esenzione. Sì, specialmente dei grandi. Specialmente dei grandi dai quali si sarebbe potuto ricavare di più. Siccome quello che li sollecitava in primo luogo era aumentare il gettito, e questo è ovvio, e quindi sono perfettamente d'accordo anch'io. Ecco, il quesito veramente più preoccupante per me, insomma, è questo. Questo mettere non in contrapposizione, ma quasi, insomma, la prima fase, la seconda fase, e questa sua interpretazione, secondo la quale, se ho capito bene, è la lunga pace, è la sicurezza, insomma, no? Quella che promuove la volontà politica di applicare l'imposta tributaria, il tributo fondiario, in quel modo decisamente... più mano libera al governo perché non hanno più il timore, discutemi non il timore della resistenza. Ecco, io sono d'accordo su questo, però sì. Mi permetto di tornare un momento sui miei passi. Io che cosa volevo dire? Io volevo dire questo, che il meccanismo, faccio un esempio, forse ci si intende meglio. La prima giunta, quando viene insediata, 718, che cosa ha davanti? Ha davanti l'esempio di Carlo V, il precedente catasto. Erano passati due secoli, in questi due secoli il catasto non ce n'era stato. Carlo VI vuole imitare Carlo V, lo vuole imitare anche in questa direzione, lo vuole imitare nel senso di fare una cosa che resti nella storia, una cosa solida, una cosa vada al fondo del problema. Ma tecnicamente non mette niente nelle mani di chi dirige la giunta, dice semplicemente voglio un catasto che sia universale, che arrivi ad un'autentica conoscenza della realtà, ma le tecniche non le descrive. Chi è che le inventa queste tecniche? Ecco, perfetto. Chi pensa ad un certo momento alla tavoletta pretoriana? Chi pensa a quello strumento che è la mappa? La mappa è una cosa che taglia ogni contrasto, ogni controversia. Perché finché non c'era la mappa, il proprietario poteva dire no, non è così, la misurazione è stata fatta male, io dico che la mia proprietà è più piccola, ma quando la mappa è fatta sulla tavoletta pretoriana, è un'esatta riproduzione in scala della proprietà, è chiaro che la mappa impedisce ogni controversia. E in effetti i proprietari impediscono, cercano di impedire fisicamente l'entrata nei campi dei misuratori con i trabucchi e con la tavoletta pretoriana, perché per loro questo era l'atto decisivo. Quel giorno che la proprietà, nella sua configurazione, veniva ritrascritta sulla mappa, da quel momento non c'era più, o si metteva in discussione tutto il lavoro del matematico, cosa che nessun proprietario si sentiva di fare, oppure tante mappe sono tante definizioni che non potevano essere contrastate. Allora, il mio ragionamento è questo. Certamente per quello che riguarda l'applicazione del tributo, l'atto politico, è decisiva la pace, e quindi il suo ragionamento. Però a sostegno del nuovo tributo, che cosa c'è? Quello che c'è, la misurazione. E una misurazione non, come dire, condotta con i criteri tradizionali, ma la misurazione è condotta con dei criteri innovativi, così innovativi da suscitare il massimo di resistenza. Ecco, questo mi è parso che non contraddice, quindi, no? La seconda parte ha come sostegno la prima. Oh, naturalmente, diciamo anche questo, la prima giunta, gli uomini della prima giunta, che cos'è che hanno in mente? Hanno in mente anche loro qualche modellino? Era lì. Sì, lo so, ma non l'ho lasciato indietro, sono andato a telefonare. Non ho visto. No, beh, abbiamo ancora... Il problema economico si presenta alimentare, perché c'è il ragioniere, possiamo interrompere per 5 minuti. No, se qualcuno continua a battere che si muove, escono uno per uno, no? Uno alla volta. Uno alla volta. Ma io posso anche essere brevissimo. Se dice una ragione che questo, perché non c'è... Questo anche perché sarà sicuro, perché deve andare al banco. Allora abbiamo la precedenza. Alla banca. Questo è così evidente che non... Va bene, allora 5 minuti di interruzione. A tuo marcio rispetto... Io non sono convinto di capire il mondo. Sì. Ma adesso vediamo ancora. Sì, ma non è il caso. Come non lo vuoi, anche io la sento. No, no, si parlava del Beccaria che era ritenuto uno dei precursori di econometrica, metodologici dell'economia. Lui era un membro del Consiglio Superiore dell'Economia, un funzionario piuttosto negligente, pigro. Ma a parte quello, non so di dove la sua legatum di economista, ma in ogni modo questo discorso, perché io tra i miei imprese lasciate a metà ho l'edizione critica degli elementi di economia pubblica di Cesare Beccaria, no? Perché ho fatto tutta la colazione del manoscritto con gli appunti delle imprese, e qui non ho più pubblicato niente. Ah, tutto lì. Allora, ma Romani ha promesso, infatti, di questo adesso volevo parlare, sì, volevo dire al momento dove si stanno mettendo. Allora, entriamo nel vivo argomento, uno dei pochi punti dove l'amico Valsecchi ed io non siamo d'accordo, e così questo susciterà, spero, anche con un po' di vivacità contro il pericolo di addormentarsi nell'autostanza. Come succede sempre a me, come voi tutti osservate. Sì, la risposta era sul secondo quesito, si era interrotta, ma io credo che possiamo tutti ringraziare le interruzioni, che così sono stato meno, più digeribile, ecco, le cose sono andate anche a mio vantaggio. E riguardava, ma era chiarito, insomma, sì, quel suo dubbio. Sì, sulla guerra di successione. Esatto, il significato dei due momenti, no? Quindi concordo e non mi pare che ci sia contraddizione tra il sostenere che è nella prima fase che si introducono alcuni elementi innovativi di natura tecnica, ma poi di significato politico, che vengono poi ripresi dalla volontà dell'attuazione. L'applicazione tributaria avviene soltanto negli anni 60. E il catasto entra in vigore nel 1760, quando la seconda giunta di Pompeo Nelli, poi la giunta interinale, completa il lavoro. Ecco, per l'ultimo problema, cioè questa mia affermazione, insomma, o problema sul mancato sostegno che l'operazione catastale, l'introduzione di un nuovo sistema di tributi, mancato sostegno da parte della scienza economica e in modo particolare della scienza delle finanze. Due cose posso dire. La prima è che in effetti quando Schumpeter parla del valore di Beccaria lo fa con molta cautela e lo fa su questo specifico punto ricordando due autori, non a caso mettendoli a confronto, lei ricorda Vauban e Broggia, no? Sostanzialmente per dire che l'idea dell'imposta unica è di Vauban, con qualche tentativo di applicazione anche nell'ambiente italiano, e probabilmente, stavo dicendo prima che arrivasse la mia Grecia, che nella prima giunta una delle letture che erano state fatte erano proprio quelle di Vauban. Di questo ho la documentazione, cioè già prima che si preparasse la prima giunta, il progetto della decima reale di Vauban era conosciuto ed era ritenuto il modello a cui riferirsi, insomma, no? Perché una tentazione iniziale l'hanno avuta di considerare soltanto il riordino dell'imposta fondiaria escludendo le altre, in sostanza poi non l'hanno fatto perché hanno ammesso anche gli altri due tributi fondamentali, quello sulla testa, quello sulle teste e quello sui commerci, sull'attività mercantile. Vauban e Broggia. Broggia che in sostanza poi è contrario alle riforme di questo tipo ed è contrario all'imposta unica e è contrario all'altro. Venendo poi alla persona di Beccaria e ai lavori che Romani ha promesso in questo campo, io posso dire questo che conferma il dubbio del professor Vassenti, perché di Beccaria siamo riusciti a ricostruire l'attività come amministratore, l'attività come uomo sul cui tavolo finivano molte delle questioni che riguardavano le acque, che riguardavano i commerci, che riguardavano l'agricoltura e sui quali lui era portato a pronunciamenti, come dire, non di carattere teorico, ma di carattere pratico. Quindi probabilmente se è possibile una riscoperta di Beccaria economista, non lo è nel senso di Beccaria teorico dell'economia, ma di Beccaria che si applica ai concreti problemi dell'economia lombarda nella seconda metà del Settecento. Come grande funzionario appunto che con molta intelligenza e con molto buon senso come dire, scioglie continuamente le questioni di carattere pratico che gli vengono, che gli capitano sul tavolo. Per quel che riguarda il catasto credo però che resti confermato che in fondo l'interesse di Beccaria per questo specifico lavoro non è stato come dire, poi è tardivo, rientra semmai nella logica della seconda ondata rispetto alla prima. Io non so se ho risposto al primo giro di richiesta. No, ma c'era la convergenza. La cosa della politica è vero, dello Stato, della centralizzazione, il censimento visto come fenomeno della centralizzazione statale, anche con quell'incontro giovanile che caratterizzava una fase parecchio peculiare, e quello dell'apporto, certo senso, della spinta dinastica che faceva dello Stato appunto il protagonista, e questo spiega in certo senso l'essere il secondo piano della politica. No, siamo d'accordo, non vedo che non... Wie ohne folgende Vorbedingungen zu dem werden konnte, was er nicht wurde, nämlich erstens die Grundentlastung, das heißt, ich habe darum, was er ist, keine Feudalpraxis, keine Feudallasten mehr für die Landbewohner, und zweitens eine intensive Landwirtschaft und nicht mehr die freie Landwirtschaft. Wenn wir mal Deutschland betrachten, der moderne Kataster ist jetzt im Zeitalter Napoleon, eigentlich Schwierigkeit geworden, dass das vorher gab, es waren urbane Lagerwege, was ja völlig anders ging, weil in Deutschland weder die moderne Landwirtschaft damals bekannt war, no, si può arrivare con l'intanto di una giornata ideale, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se Leute, die glaube ich, in die Richtung der Sangre, die geht, dass der Katastrophe offenbar einen wesentlichen Impuls gegeben hat für die Formulierung des modernen Eigentumsbegriffs. Und wenn man den modernen Eigentumsbegriff analysiert, so besteht es auch im Wesentlichen daraus, dass es einen individuellen Eigentumsrecht mit vollem Eigentumsrecht, das ist ein gemischtes Eigentumsrecht gibt. Wie es im Wesentlichen beim feudalen und beim meridalen Eigentum eigentlich üblich war. Und der Kataster mit seinem Trend zum Individualismus, diesem Trend des Bürgerlichen, ist im Gegensatz zu aristokratischen und zum vorwählerischen feudalen Eigentumsrecht Vorschub geleistet hat. Und das dritte, das wäre ein leichter Vorbehalt gegen ihre These, sie haben gesagt, gerade in der Nationalökonomie zeigt sich der besondere Rationalismus der Meinung der Nationalökonomie oder Aufklärung, schon die Vorbehalte, wo sie ablehnen, alles sind ja da gewesen. Während ich glaube, Bestätigung dafür zu haben, dass gerade umgekehrt in der Beschäftigung mit der Nationalökonomie, die meines Aufklärung behauptet, in der Krise geführt hat, der Gegner wäre Ideen nicht alles, was vor ihm bestanden hat, nationalökonomisch ab, sondern im Gegenteil, das spricht ja nur von einer Dekadenz an. Mit anderen Worten, es gab eine Zeit, in der die Nationalökonomie meiner höher ausgeführt war als zu seiner Gegner, also 1960. Und ihr weiß natürlich, dass man das nicht einfach diskutieren kann, aber aus den Lehren der Vergangenheit sucht er, aus den Lehren der Vergangenheit sucht er die Lehren für die Zukunft zu schaffen. Das heißt, gerade nicht die Vorbereitung der Ablehnung aller Nationalökonomen. Dinge, die vor ihm lagen, sondern mehr das Durchziehen der von der Geschichte überlieferten Möglichkeit. Und daher ist eine Wendung, ich würde sagen, allen Vorbehalten zum Historismus, der durch die Gesetzung und die Nationalökonomie der Boden gemacht war. Vuoi chiedere, Luca? Sono tre domande. La prima domanda è se lei crede che delle condizioni primarie per il catasto erano anche in Lombardia la pratica non esistenza di diritti feudali sulla proprietà, cioè che la proprietà era praticamente liberata da diritti feudali, mentre in Germania questi diritti feudali rimangono fino alla prima metà dell'Ottocento, così in Germania si ha il catasto. Però abbiamo il caso contrario, in Austria abbiamo il catasto franciseo e invece la Grundentlastung avviene soltanto nel 48. Questa è una risposta mia subito. E l'altra condizione era la cultura intensiva della Lombardia, che era già diversa da quella dei tre campi, che è ancora vigente, del cambiamento dei tre campi, tra i Feld e Wirtschaft, non so come il termine. La rotazione. Al nord delle Alpi. La seconda domanda era quella che si riferisce a. Also als Zweitigen? Ja, die Frage, ob es richtig ist, zu sagen. Das war nur ein Stichwort zu sagen, das ist dann falls schon wieder ein. Ja, che il catasto porta al moderno concetto della proprietà. cioè ha un concetto appunto moderno o borghese, se si vuole, o non più del mondo feudale, di una proprietà assoluta e univoca, mentre nel Medioevo c'è questa proprietà, comproprietà divisa in fondo fra il proprietario e quello che lavora la terra, eccetera. E la terza cosa è quello che si riferisce, come lei ha detto, al concetto che gli economisti milanesi, il gruppo dei riformatori milanesi, abbia completamente voluto la negazione del passato, e che si esprime nelle loro teorie la negazione del passato. E il dottor Pippo domanda se non è proprio al contrario, che loro, per esempio, cita l'esempio del Verri, che lui conosce specialmente bene, che sia venuto attraverso la occupazione con la economia al problema della decadenza, al problema della storia, e così ha un certo storicismo, benché molto misurato. Questo sarebbero le tre. È molto difficile. Ma rispondo subito. Sì, credo che... Ma dunque, la prima e la seconda domanda, se ho compreso bene, si legano molto fra di loro. Credo anch'io che la buona riuscita del catasto dello Stato di Milano e la buona riuscita del riordino delle imposte in generale, e in modo specifico la riforma del tributo fondiario, sia legata alle condizioni già di progresso rispetto all'antico regime dell'agricoltura in questa zona. Certamente in questo ambiente, per esempio, una moderna concezione della proprietà, cioè una proprietà che nella sua sostanza è libera da vincoli ed è liberamente commerciata e può essere data in gestione mediante libero contratto, questo è soprattutto nelle zone irrigue, nelle zone migliori per l'agricoltura, no? A sud di Milano, è certamente già esperienza di qualche secolo, insomma. Certo, il rapporto tra modernità del sistema agricolo e catasto non si pone nel senso che solo quando c'è un'agricoltura moderna, almeno storicamente, là sia stato voluto, il catasto è stato voluto per altre ragioni, e semmai il diverso tipo di rapporto, di reazione che ne è nato, laddove il sistema agricolo era prevalentemente, non tutta la Lombardia delle zone di colline, delle zone di montagna, da tutti i punti di vista è ancora agricoltura di antico regime, o in gran parte agricoltura di antico regime, no? Quindi il problema è di un reagire positivamente delle agricolture progredite rispetto al catasto, all'operazione del catasto, e probabilmente anche reagire nel senso di lasciarsi stimolare, così come verrà teorizzato più avanti, verso lo sviluppo, verso la trasformazione. Almeno così mi sembra di poter rispondere. Ecco, per quel che riguarda questa caratteristica tipicamente settecentesca, insomma, tale da farla rientrare nello spirito del Settecento, del catasto, cioè di essere negatore di tutti i precedenti, io volevo dire semplicemente questo. Che all'origine, quindi già per esempio prima ancora che funzioni la giunta, con i tentativi precedentemente messi in atto, quello che precede ogni idea di cambiamento è una critica radicale del sistema dei tributi che si era costruito tra 5 e 600, ritenendolo responsabile di inuguaglianze, di situazioni di privilegio. Cioè, in questi, che non sono teorici di alto livello, ma sono dei pratici, c'è però questa sensibilità, questa consapevolezza che tutto quello che sta dietro, che esiste ancora in quel momento ed esisterà ancora per fino al 760, è malato per complicazione, per disuguaglianza, perché è fattore di ulteriori disuguaglianze e di spreco, di dispersione. L'hanno molto preciso questo. La stessa relazione di Pompeo Neri, la prima parte, è dedicata all'esame di tutti i difetti del sistema. Ma già alcuni tentativi di riforma della fine del 600 e dei primi anni del 700, in libelli, in memorie che vengono pubblicate, già è chiaro questo punto. Si critica alla radice il sistema precedente. Magari con qualche illusione, con qualche ingenuità, l'imposta unica. Ecco, la lettura di Vauban ha certamente influenzato qualcuno e gli ha fatto immaginare che sia possibile semplificare, cioè al posto della complessità, la semplicità, al posto della materia aggrovigliata, la materia delineata geometricamente, insomma, un'imposta unica, un'imposta sicura, calcolata sulla base della decima e niente altro. Ecco, questa illusione della semplicità del sistema che presuppone però la condanna di tutto il caos, diciamo, caos con una certa intelligenza naturalmente, no? Esistente precedentemente. Era questo, sì. Se non sbaglio, la... Non so se sì. Sei soddisfatto. Sì, sì. Se posso dire qui una cosa molto... solo per ricordare a noi, perché ne abbiamo parlato, siamo qui proprio a quello che il Hazard chiama la crisi della conscienza europea. Cioè proprio negli ultimi, lui dice, super giù dal 1685 al 1715, arriva questa enorme trasformazione, cioè di voler riformare quello che sta. Mentre per secoli l'idea era il vecchio è buono, come dicono ancora quelli milanesi, le idee, le cose nuove sono sempre, anche se sono splendide, sono sempre pericolose. Qui c'è lo spirito nostro muratore, riforma, riforma e ancora riforma. Questo è in verità una trasformazione enorme e tutta l'impresa del 18 sarebbe impossibile se non ci fosse questa idea del governo, sotto la spinta della necessità economica. Il dettaglio, primo caso. Se noi abbiamo bisogno di evitare che i popoli, in base al popolo, e facendo questo catastro è stato fatto con un valore di simbolo, in modo da donare la terza volta, io direi che nell'ambito del catastro nuovo, quello che è detto, dovrebbero distinguere due elementi. Uno, il catasto viene deciso per modificare il sistema civile. E il nuovo è condotto per il sistema civile. Quando nel 2002 il catasto viene deciso per guerra, il sistema polacco si porta da qua in Italia e viene rapidamente verso le casse e nel campo e quando prima non è fatto anche lì c'è la resistenza, i dati sono molto vicini a un certo viene mandato via questo catastro di dati. Quindi direi il problema è uno aspetto della modernità del sistema è rilevante. Nel momento del rilevamento la programmazione è minimamente fiscale, però ho anche la sensazione che non si ha minimamente idea di come si dovrà risolvere il problema della tassazione. Il problema della tassazione è questo, nel momento viene un po' accantonato. Quello che invece è l'opera del secondo momento è un'altra. Ma guarda, questo rilevamento che è fatto, ormai siamo di fronte a questi risultati, con quale criterio vogliamo andare? E allora il criterio dominante del posto locale dell'incremento all'agricoltura lo chiama la nazione. Come principio non è forse un po' che pensiamo tutte anche recentemente quindi pretendiamo il caso per metà di nuova costruzione, per favorire la costruzione e l'investimento. Questo che è il secondo momento, che non si può fare, anche se dietro è il l'aggiornamento del valore della terra, richiederebbe un lavoro stato già da impossibile, perché la fissazione per 30 anni del catasto dà un certo respiro in matrimonio. Un realista che è un interessante. Cioè anche, e forse ancora, non si può dire, ma questo è un impegno di tutti i se un bene è di proprietà di un ente, di vada una persona, se è di proprietà di una persona fuori dell'età, vada un'altra di un uomo. Per cui lo stesso caso può essere che le donne pagano tassi diversi e non liberi di una, come è scritto negli altri giorni, pagano tassi diversi secondo la categoria o alla medicina. Questo mi sembra chiara delineazione della prima dell'allargamento della città sulla campagna e a conservare il diritto al segno del confronto della campagna con il campo e è rimasto come strutture anche nel momento in cui la città si è allargata della, diciamo, della, quella progetto dei giorni Conte di Prasma Signora, che scoperti andando a Viena, che la prima richiesta e secondo la profonda e rivoluzionaria diversità tra questa stessa e quando nel 1713, dopo la fine della guerra di vivono stato in Milano verso i nostri soldi, viene fuori un progetto di sopravvivenza comunitaria che dice qui non si vede più questo soldi. L'unico sistema è fare l'imposizione ma non si parla di un po' presto. Cattoriano territorio, bene per male, diamo una tassazione di libro che viene utilizzata su tutto il territorio in base alle funzioni. Poi le singole comunità che avranno le possibilità di fare le funzioni interne e la tassa di salute. Ora in corso, quella prima tassazione che con l'interpretazione si voleva a tutto il territorio e sarebbe stato tassato tutto in modo uguale per mancanza di possibilità di accesso. E questa seconda impostazione di pochi anni dopo, il progetto è stato approvato, quindi l'ordine di applicare, da Milano di Como, a parte anche della città che si è fatto in Costituzione, è possibile, che è assurdo pensare che la maniera o come possibile, no, non lo so, qualcosa del genere, pare di quanto ho fatto le vittime, quanto è un stretto, che è una cosa assurda. Ma la Vienna è fatta, no, no, il progetto va bene, anzi è la cosa più chiara, più logica, più semplice. Non è quello che sei abituato, si fa, allora anche ha un reale momento di sicurezza per vedere come e dove si può finalizzare, come c'è la difficoltà di questo impatto. Una domanda che voglia fare e in questo momento non siamo per cui noi non avevamo già risposto di questione di genere risposto questo rilevamento che viene fatto per ogni di chi deve lavorare questo discorso nella democrazia è fatto anche nelle altre terre dell'Italia sì o no? No, no. Come mai viene fatto soltanto? No. Nel Napoli c'è la numerazione dei fuochi tentativo. Che avete visitato dalla Spagna una situazione fallimentare dal punto di vista economico e disorganizzatissima dal punto di vista anche del territorio, ci sia un tentativo di riporre ordine e anche di questo fatto. Però quando noi facciamo il conto dei fuochi che siamo in una tecnica che è mondiale, quando facciamo questo rilevamento, posso dire dare una risposta molto superficiale. Il fatto è che negli altri paesi dell'Austria esiste l'organizzazione degli stati, cioè tutta delle stände. La rappresentanza degli stati ha fino adesso tenuto in mano la distribuzione delle imposte. Cioè, sì, ma è una cosa un po' diversa, perché tutto il territorio, i singoli land, che sono una unità politica, amministrativa, non solo, ma sono veramente, sono il part del principe, hanno perso al principio del 600 il loro peso politico, però hanno mantenuto il loro, e anzi ancora più sviluppato, il loro peso amministrativo e finanziario. Cioè il principe si rivolge, gli uffici centrali di Vienna si rivolgono alle singole province e dicono: voi dovete pagare tanto tanto, come tutti di qui. Allora c'è lì già un apparato che male o bene funziona, di tutta la rappresentanza dell'AM, perché il Landtag è una specie di rappresentanza, perché principalmente, quasi assolutamente, i padroni della terra che esistono, cioè la nobiltà e i grandi vecchi conventi, e pochissime le città Landesfürstlichenstädte, di diretto dipendenza dal principe, e lì hanno già un loro, un loro apparato, i loro funzionari che distribuiscono queste tasse, che poi vengono, e lì succede lo stesso come a Milano, che cioè che molto va sparpagliato, eccetera. E soltanto, ma ci sono vecchi diritti, e lì non si ha la possibilità di rompere. Solo con Maria Teresa, con la riforma di Hawkins, si fa una cosa simile. Si fa poi la istituzione, ma prima il primo problema qui è di levare l'amministrazione delle tasse dalle province e prenderle in mano agli organi del principe. Cioè si crea, secondo l'esempio prussiano, si creano le Kreisämter, i reggimenti delle singole province, che adesso loro stesso distribuiscono le tasse, eccetera. Però abbiamo, però rimane pur sempre in vita, rimangono pur sempre in vita gli Stände come organi di amministrazione. E già 30 anni dopo, per esempio, il mio Leopoldo propone di rianimarli, perché loro sanno meglio della burocrazia centrale che quello che è necessario per i singoli paesi, loro sanno più, capiscono più le cose contro il centralismo burocratico, eccetera. E poi il catasto viene fatto soltanto dopo Napoleone, dopo negli anni 20, 1820, il famoso catasto franciscano, che prende l'esempio del catasto teresiano. Questo qui è una brevissima risposta. Non il catasto profondo, ma quando loro il catasto politico è volato, il catasto viene a dare la possibilità di una nuova. Dipende, credo, dalla forza della istituzione. Qui nel milanese, che era lontano e che era una terra di recente conquista, naturalmente era più facile che non, e poi economicamente molto più importante. Milano era sì. Sì, anche questo è un po' il territorio, il Ducato di Milano, che ha la grandezza ideale, quello che ho detto il primo giorno, il Ducato di Milano ha la grandezza ideale per provare nuovi metodi. Si prova prima là, perché in tutta la vasta monarchia sarebbe, poi ci sono le leggi dell'impero, cioè l'imperatore non può andare, vede, c'è un aspetto, per esempio, nei territori ereditari l'imperatore non può andare avanti, dare l'applicativo esempio, perché lui è nello stesso tempo imperatore del Sacro Romano Impero, non può fare quello che fa il re di Prussia, cioè lui deve sempre mantenere l'ordine costituito, mentre a Milano è lontano, lì si crede di poter fare, perché praticamente poi non si fa, perché praticamente diciamo la trasformazione arriva anche negli anni di Maria Teresa. Posso rispondere? Io chiedo scusa per il poco tempo a disposizione, perché sono state sollevate delle questioni che meriterebbero un lungo discorso. D'altra parte ho un po' lo scrupolo di non entrare in temi, come dire, troppo particolari, insomma. Però mi pare di poter replicare, allo scopo, come dire, di chiarimento ovviamente, anche per me, alle cose che sono state dette, almeno su quattro punti. Il primo è questo, la prima giunta, il nostro discorso è praticamente sul catasto teresiano, si concentra su questo e non a caso. E la prima giunta che dà luogo alle operazioni di catasto conclude le sue operazioni forzatamente nel 33, ma già dal 31 e 32 è in grado di mandare a Vienna quello che è il progetto di nuovo sistema completo di tassazione. Mi dispiace di dovermi citare, che è sempre una cosa antipatica, ma io ho pubblicato questa memoria. Ed è una memoria nella quale la giunta delinea quella che sarà l'edificio tributario che ha in mente. C'è un edificio tributario in cui l'imposta fondiaria è il perno, ma accanto all'imposta fondiaria l'imposta personale e l'imposta sui commerci. Tanto è vero che procede anche ad un censimento della popolazione, per sapersi in due riprese, e fa un'inchiesta attraverso i famosi 45 quesiti per accertare tutte le situazioni di produzione economica non agricole. Quindi il suo obiettivo, che originariamente era solo l'investigazione di quello che la terra poteva dare, si allarga anche ad altri aspetti della vita economica, quindi le feste, il censimento, i 45 quesiti, le attività. Anche da questo punto di vista Pompeo Neri trova quasi tutto fatto, trova già, naturalmente c'è il discorso della volontà di applicazione che è successivo, su questo non torniamo. Ecco, sull'altro punto del bloccare la tassazione per un certo periodo, non dimentichiamoci che essa è stata promessa al momento dell'attuazione del catasto, cioè nel 60. Io non sono dell'opinione che, anche vedo anche in altri ambienti questo, che gli preoccupasse l'aspetto tecnico del rinnovare periodicamente. A parte che ci sono degli accorgimenti per rinnovare una valutazione catastale, non è necessario rimisurare tutto, basta applicare dei coefficienti, questo si fa normalmente, no? Si stabilisce una base e poi periodicamente mediante un certo coefficiente si rivaluta, no? Naturalmente qui nel Trentino è stato fatto così, è stato fatto il catasto teresiano sul finire del 700 e poi a partire dal 77 ogni 5 anni, ogni 3-5 anni si rivalutava mediante una proporzione, diciamo, che era il risultato di indagini delle commissioni provinciali, le quali riferivano sul probabile possibile miglioramento medio dell'attività agricola. Sulla base di questo si rivalutava la base catastale. Quindi il motivo è che, a mio parere naturalmente, per il quale nel 60 si promette questa stabilità, è una sorta di compenso che viene dato, perché da questo momento è chiaro che con l'entrata in vigore del catasto non si potrà più sfuggire. E allora una specie di corrispettivo è, come dire, una sorta di tregua tra il potere centrale e il proprietario: io ti ho fissato l'imposta, vivi tranquillo per un certo numero di anni, perché non calcherò più la mano in questa direzione. Non dimentichino che questa è un'agricoltura che in certi aspetti, dico l'agricoltura lombarda, negli ultimi decenni del Settecento ha veramente certe trasformazioni, unica tra le agricolture italiane, ma la gessobaticoltura per esempio ha un periodo di grande fioritura, la possibilità di commerciare sete, formaggi, risi, grani, veramente arricchisce alcune zone, e quindi questo è veramente un compenso che viene dato al proprietario. Il nostro problema, il problema che io ho messo sul tappeto e che capisco possa anche provocare qualche dissenso, è questo sostanzialmente. è certo che con questo meccanismo della stabilità non rifacciamo il catasto se non fra 30 anni, diamo quel tanto di tranquillità che permette al proprietario attivo di lucrare sulle differenze. Questo è certo. Il problema è se questo è stato fatto consapevolmente o no. E non è stato semplicemente teorizzato quando già questo avveniva. Se era o non era nelle intenzioni dell'operazione catastale, su come tale. Questo sarebbe molto importante, certo, perché avremo un'idea se avevano o non avevano un'idea di sviluppo o se accettavano la crescita così come essa avveniva normalmente. Sulle altre cose sono d'accordo, soprattutto sul problema complesso delle esenzioni, certo, è articolato il discorso, come è stato giustamente richiamato. Io mi permetto qui però di fare un'osservazione a proposito della continuità di queste cose nel tempo. Tra gli estimi e i catasti c'è una differenza radicale. Quindi il catasto teresiano è, per ragioni che adesso non diciamo, non ripetiamo, è veramente un qualcosa di qualitativamente diverso. Non è un estimo migliore, è qualcosa di diverso. Non è più accertare per via di denuncia, ma è accertare direttamente, il che ha un enorme significato, perché muta i rapporti tra il potere e la proprietà, e non fidarsi più della proprietà, e non accettare più dalla proprietà l'affermazione, come dire, di un certo tipo di dichiarazione su un punto fondamentale. Ecco, Andrea, ancora prima, abbiamo parlato delle esenzioni. L'offensiva contro le esenzioni non è soltanto l'offensiva fiscale contro qualcuno che si sottrae individualmente, certo. È l'offensiva, si ricommette al sistema, si richiama a determinate concessioni di legge o privilegi feudali, eccetera, sì. E quindi si risolve a una tonalità diversa, come dicevi giustamente. Ecco, e se posso, ma porto via ancora qualche minuto soltanto, è stata posta una domanda a questo punto, per quel che riguarda quel passaggio intenso, quella modifica piuttosto radicale, relativamente radicale, avvenuto sul finire del Settecento e soprattutto all'inizio dell'Ottocento, presenza francese, vendita dei beni nazionali. Io qui devo dire una cosa, per quel tanto che so io, non possediamo ancora studi che ci diano l'esatta dimensione di queste cose. Ecco, io conosco un giovane studioso che sta lavorando da anni su questo, ed è Cova, il quale ha fatto una tesi sulla vendita dei beni nazionali in Lombardia e adesso sta schedando tutti i trapassi, perché tra l'altro c'è una cosa molto importante da tenere presente, che non è il primo acquirente che conta, è l'ultimo acquirente che conta. Ora purtroppo nelle carte ufficiali risulta il primo acquirente, ma non quello a cui effettivamente è andata la terra, e quindi bisogna allargare il discorso e la ricostruzione ad un ambito sufficientemente ampio per vedere se il bene del convento, alienato, se si è sottratto alla proprietà dell'ente e poi messo in vendita, dove effettivamente è finito. Media speculazione da preparamento. Certamente. La media proprietà, e quei discorsi su si è formata una media proprietà, una piccola proprietà, una proprietà diretto coltivatrice, una grande proprietà, secondo me sono illazioni a questo punto qui. Sono illazioni, possono anche essere suffragate da qualche altra testimonianza indiretta. Ma al momento qua, se noi abbiamo un caso, Vincenzo D'Angelo, ma Vincenzo D'Angelo nel Varesotto compra una grande proprietà, non una media proprietà. Però molti che hanno piccolo questo è il livello fondamentale. Ecco, ma dopo quanti passaggi però? Questo è il punto. Dopo quanti passaggi? Ecco. Certamente, è proprio per questo che bisogna ricostruire. Certamente. E allora abbiamo il passaggio della grossa proprietà a un'altra grossa proprietà. Ecco, questo era un punto che mi sembrava importante. Sulle resistenze, tema classico per chi studia nel suo complesso la società del Settecento, io volevo soltanto ribadisco questo concetto. È vero che sempre le resistenze sono determinate dal grado di solidità, se la struttura è solida, la resistenza è maggiore, se la struttura... Però io volevo far presente a loro questo, che qui non siamo in presenza di un'innovazione marginale, qui siamo di fronte ad un attacco diretto ad una posizione secolare di predominio della proprietà. Quindi è una cosa di rilevanza che supera gli attacchi che possono essere venuti da altre fasce. Qui la resistenza misura l'attitudine, la capacità, l'orientamento della proprietà a modificarsi, a reinvestire in altre direzioni, quindi a trovare altri orientamenti economici. Quindi resistenza maggiore o minore a seconda anche proprio del suo orientamento rispetto alle possibilità di progresso di natura economica oltre che politica. Io qui chiedo sempre scusa perché forse la deformazione professionale storico-economico vedo determinati aspetti della realtà, ecco, modestamente mi permetto di portarli perché siano integrati in un discorso più ampio e culturalmente più ricco di quello che posso fare io. Grazie. Una ultima domanda, solo per una parola. Quanto era grande quel staff che ha fatto questo enorme lavoro? Si sa qualche cosa, no? Sì, c'è tutto. All'archivio di Stato di Milano ci sono i ruoli, con i salari, con le giornate e le ore di lavoro, per misurare, per stimare. Sono tutte le pezze giustificative delle spese che erogate. Per dire tutto, è tutto chiaro. Io in questo momento sono preso un po' in difficoltà perché un piccolo calcolo l'avevo fatto a suo tempo del piccolo esercito. Sì, perché dunque era un esercito stratificato, c'erano i misuratori sul campo, con la tavoletta pretoriana, seguiti, assistiti da quelli che avevano gli strumenti di misura, c'erano i disegnatori d'ufficio, c'erano i periti stimatori che raccoglievano tutti gli elementi, c'erano i trascrittori, come dire, sulle varie copie, e poi c'era la giunta formata da 3-4 responsabili massimi sotto i quali stavano i geometri, cioè quelli che facevano i calcoli, i calcolatori elettronici. Allora un piccolo esercito, ma relativamente ristretto, piccolo conto, se si pensa che se si facesse oggi questa cosa sarebbe certamente sì. Tenuti ferreamente la disciplina, tra l'altro, perché facevano quasi niente. Grazie, lo ringrazio moltissimo, l'abbiamo spremuto come un limone, veramente molto gentile. Credo che questo è un campo, purtroppo noi abbiamo qui un certo squilibrio perché lei è lo specialista, noi purtroppo nel nostro campo, nel nostro gruppo, dalla parte germanica, austriaca, non abbiamo nessun specialista di storia economica. Noi possiamo forse riferire ai nostri colleghi, chiedere aiuto e elucidazioni e forse anzitutto avere un certo anche scambio di indicazioni bibliografiche, eccetera. Di nuovo tante grazie, perché noi vediamo tutti che questo in fondo è la base reale di tutto quello che abbiamo, del quale abbiamo parlato, e io credo che siamo ritornati su problemi di principio, come appunto quello della riforma, del cambiamento, e credo che non posso abbastanza sottolineare che c'è un atteggiamento radicalmente diverso da quello che si può dire, per dirlo con le parole del mio caro vecchio, nostro caro vecchio amico, mio maestro Otto Brun, che da Omero e Esiodo fino a Montesquieu è un mondo e un modo di pensare, e lì comincia un nuovo modo di pensare, cioè quello di trasformare, di riformare, eccetera, che è di una importanza straordinaria. Di nuovo ringrazio, e adesso volevamo alla fine fare una nuova ultima pagina. Siamo alla fine del nostro convegno, perché adesso fra un'ora gentilmente ci viene offerto un rinfresco, ma prima vogliamo tirare le somme e chiediamo tutti a dare suggerimenti per cambiamenti tecnici o anche di sostanza per futuri seminari. Apro dunque, Tu sei d'accordo? Naturale, vi di darci dei consigli, le vostre osservazioni, i vostri consigli, le vostre impressioni. È vero che possono servire della... Credo che siamo d'accordo. Diciamo, come materiale prezioso. Per poi, novembre. Non lo sviluppo ulteriore. Das muss ich doch noch sagen, auch noch sagen, dass wir bitten jetzt um Anregungen für die sich aus den jetzigen Erfahrungen dieses Seminars ergeben haben, für künftige Seminare, wie man es anders machen könnte, was man verbessern könnte, wo es, was es da hier an Anregungen und so weiter gibt. Coraggio. No, Herrscher. Herrscher. Ein. Tecnicamente, cioè di fare dei riassunti. Sì, riassunti. Di presentare degli schemi prima in modo che tutti possano avere dinanzi agli occhi. Già prima. Vero, già prima. Magari anche. Magari anche mandarlo già ai borsisti, che loro sanno già venendo qua di che materia si parlerà e avranno già, diciamo, un riassunto. Questa è una cosa che si riferisce in gran parte alle competenze di eccellenza ministro Togni e delle Poste Italiane e delle altre poste, perché, scusino se lo dico così apertamente, perché naturalmente richiede un certo scambio di lettere che in questo periodo veramente è stato molto difficile e i nostri contatti abbiamo dovuto ricorrere molto spesso al telefono e lei si può immaginare se non possiamo telefonare un riassunto eccetera, si potrebbe, ma insomma tanto le poste non sono servite di alibi, è vero, ai singoli relatori anche quello trattare i singoli relatori è anche difficile, lo dico anche come relatore. Sì, das muss man ja auch bedenken, dass natürlich die einzelnen Referenten manchmal eben nicht die Zeit haben, rechtzeitig das vorzubereiten. Also ideal wäre das so, wie Sie es vorgeschlagen haben, dass man es vorher bekommt, schon Monate vorher, dass man es abziehen kann hier und an alle ausschicken. Aber auch unsere die Referenten haben auch eine Menge andere Arbeiten, kommen in Verzug und so weiter, ja? Sì, al più tardi, no, questo più è tardi portarli con sé, insomma. Sì, questo, l'ideale sarebbe già prima, l'ideale sarebbe prima, ma questo è una media. Almeno questo per ovviare sia le poste che agli impegni, no? Agli impegni. Era perfetto. Sì, è una cosa, si vede, sentita sia al nord che a tutte le Alpi. Volevo solo la parola autocritica anche come organizzazione, perché la storia è stata l'autocritica loro delle poste, ma quest'anno tutto ha cominciato a finire il 3 novembre, no? E il regno costruito anche sul campo della Sì, lì abbiamo poi l'idea di farlo illuminismo, questo era già in novembre, ma poi diciamo chi lo fa, chi crediamo, chi domandiamo come referenti, io ve l'ho detto anch'io ve l'ho detto tardi, poi bisogna pensare, per esempio nel caso nostro, Dr. Hersch a Berna, la signora Garnte a Roma, Kingensteiner a Vienna, allora c'è anche questo naturalmente. Io concreto adesso in novembre si sceglie i segni a i responsabili di coordinamento, in modo che i bandi di gennaio, in marzo, in agosto, tutto alcuni mesi. E qui entra subito la domanda anche suggerimenti per futuri temi. Anche questo. E di altri suggerimenti, facciamo di metodo l'organizzazione della settimana. Sentiamo un po', avete altri suggerimenti organizzativi e metodologici? Questo sì, è una legittima esigenza che esponiamo. Anche qui? Sì, questo è stato questa volta che è un po' stato anche per, anche c'entrava anche la posta, che per esempio il dottor Hersch c'erano due lettere, che così l'idea era solo una, poi lui ha proposto un altro tema e in effetti qui a Trento hanno poi invece di scegliere fra l'uno e l'altro ha accettato tutte e due, così abbiamo avuto una relazione in più. Una relazione in più e così questa mezza giornata è andata via. Poi c'era il nostro difetto che noi dobbiamo andare via stasera, così l'altra mezza giornata è andata via. L'idea originale era di aver più respiro. Sappiamo tutti che un difetto di questa settimana è stato il lavoro massacrante di questi giorni senza riposo, perché da lunedì mattina praticamente fino a stasera lavoriamo ininterrottamente, veramente si può dire, perché se prendiamo anche i pasti lassù, che sono sempre una specie di conversazione e anche di lavoro, siamo ininterrotto, veramente abbiamo veramente il lavoro ininterrotto, e per quello è anche perdonabile se qualcuno si addormenta. Spero almeno. Sì. Posso tradurlo brevemente in italiano? Prima cosa è una lavagna per i nomi propri, specialmente i nomi propri, i dati, eccetera, anche per le citazioni bibliografiche, perché ognuno ha un po' di difficoltà con la lingua degli altri, con la pronuncia, eccetera, certi nomi che sono familiari a un gruppo linguistico, non sono all'altro. E poi per quello che è fuori da questa cerchia ristretta, forse sarebbe possibile in un altro seminario che la direzione dell'istituto in qualche ristorante di città dice di prenotare alcune tavole, che così dove ci si può ritrovare, così che diciamo il mixing, l'incontro fra i due gruppi linguistici avvenga anche lì la sera in chiacchiere, eccetera, in un allegro conversare, e che non sia così che quelli di lingua italiana vanno alla ricerca di un ristorante e quelli di lingua germanica vadano alla ricerca di un ristorante. Questo è interessante, perché noi avevamo scelto, siccome stavamo insieme tutti i giorni, almeno la sera non Non è obbligatorio. Dire semplicemente un punto di riferimento. Chi vuole andare lì, chi è solo, che vada lì. Sì, appunto. Sì. Sì. Das war, questa era l'idea, qui dobbiamo di nuovo noi come coordinatore, credo Franco tu e io poi dobbiamo battere il nostro petto, perché questa era l'idea della direzione, ci hanno più volte chiesto avete delle cose che dobbiamo preparare eccetera, e noi a questa domanda abbiamo fatto l'orecchio di mercante e non abbiamo risposto perché avevamo tante altre cose da fare, ma è giusto che si potrebbe fare qui, preparare quello che si chiama un apparato, cioè una bibliografia, testi eccetera eccetera, e questo loro l'hanno voluto e noi non l'abbiamo fatto. Per esempio, la prossima settimana sì, per le fotocopie di testo di Federico II eccetera, che sono state fotocopiate, non andranno avanti, però per la storia medievale è sempre più facile, sì. Non è solo un tema di cattivo buona volontà, per sì. La storia medievale il tema era più sì. Sì. Aber schauen Sie zum Beispiel die Biografie der Aufklärung in Deutschland und Italien. Ja, für unsere Einführungsarbeit, wir konnten natürlich keine. Für solche Themen. Für die speziellen Themen. Für die speziellen Themen, weil im Ganzen, das ist ein Ozean. Ja, so gemacht. Einige wichtige. Wir haben die Arbeit von Frau Gardner, die Professor Walczycki, tutti e due hanno fatto Bibliografie. Und meine in der historischen Zeitschrift auch noch. Ja, potevamo portare le nostre, gli estratti delle nostre. Perché tutti e tre abbiamo fatto Bibliografie per questo periodo. La signora Gans, quella della Römisch Mitteilungen, e io nella historische Zeitschrift. Già, quindi potevamo portarle. Perché noi tutti e tre abbiamo fatto delle bibliografie, lui nella bibliografia del Risorgimento, ultimamente, anzi prima è abbastanza già, recente. È abbastanza recente, lei l'ha fatto in quell'articolo nella Römische Historische Mitteilungen e io nell'ultimo Sonderheft della Historische Zeitschrift. Io credo sia fondamentale questo, cioè l'anno prossimo, quando iniziamo, diciamo contemporaneamente la bibliografia. Sì, sì. Für die speziellen Referate, ja. Ja, ganz sicher. Also dass zum Beispiel die Frau Klingenstein oder der Herr Professor De Mattei zum Beispiel eine Bibliografie auch mitgebracht hätte. Ein generaler Riassunto. Sì. Generaler Riassunto. Bibliografia essenziale. Essenziale, non troppo lungo. Il difetto è sempre qui la perfezione, perché se diventano poi 50 pagine, allora non serve più niente. Una bibliografia, diciamo, selettiva. Das haben wir ja sowieso gemacht. Jetzt haben wir gefragt, was meinst du, sollen wir das machen und so. Das hängt mit den Möglichkeiten hier zusammen. Ja, wenn ich das Wort habe von Dr. Dieter mit der Damen am Abend, die wäre auch sehr lange sehr wichtig, können wir vielleicht Ich glaube, da möchte ich doch sagen, das widerspricht den Gewohnheiten. Und ich glaube, ich habe das von den, auch hier von der Mehrzahl eigentlich der deutschsprachigen Stipendiaten gehört. Also ich darf mich selbst hier nicht als Beispiel nehmen, weil ich die italienischen Kongressgewohnheiten zu sehr kenne. Aber dass man es eigentlich doch dann recht angenehm empfunden hat, dass diese etwas länger dauernden Mittagessen doch Gelegenheit zu Gesprächen gegeben, zur Entspannung und zu Gesprächen gegeben. Und Sie sehen ja oben nicht nur das Gasthaus mit den zwei kleinen Mädchen, das konnte ja nicht schneller gehen. Also das ist, wir wollen ja keinen Cafeteria-Betrieb haben, wisst ihr? Man fragt jetzt von 5 bis 7. Das ist aber nur möglich, wenn man einen freien Nachmittag aufmacht. Denn bisher war ja die Distanz. Und das ist die Distanz ja auch natürlich. Aber das ferne Ziel. Eben. Das ferne Ziel. Danke sehr. Das ferne Ziel ist ja die Foresteria, aber das geht nicht so schnell. Egregio Rettore, è stata fatta una ottima proposta, perché la foresteria durerà ancora parecchio tempo, naturalmente. Sarebbe forse un'idea di comprare alcune sedie a sdraio quando si vuole veramente cominciare più tardi e dare la possibilità a quelli che sono assidui di lavorare nella biblioteca, prepararsi per la discussione, e agli altri di sedersi sulle sedie a sdraio e di fare un pisolino. In modo che l'anno prossimo ci saranno le Ecco, il problema della lingua, per esempio, che per noi era una cosa abbastanza preoccupante, mi sembra invece che non sia un grosso problema. È vero? Beh, sì, oddio, perché qua abbiamo avuto la fortuna di avere Adam Zandruska. No, ma il problema si presenta. Il problema si presenta. Ein bisschen haben die Deutschsprachigen hier ein bisschen sozusagen nachgegeben oder nicht nachgegeben, denn es ist ja kein Streit, aber es ist manchmal ein bisschen auf Kosten der Deutschsprachigen gegangen, glaube ich. Auch wir haben uns immer bemüht, Frau Gans und ich, Italienisch zu sprechen. Voi conoscevate meglio l'italiano di quanto noi l'italiano. Non so se è vero, ma poi siamo anche in Italia, ma è chiaro che... Die Frage existiert, es ist vielleicht ein bisschen, wir haben uns zwar bemüht, aber bei der Diskussion, wenn man bei der Diskussion jeden Diskussionsbeitrag übersetzt, dann ist es, das geht nicht, dann unterbricht man. Die müssen wir übersetzen. Zweisprachig, ja. Es ist kein Problem, das haben wir ja gesehen, du und ich, die Referate zu assumieren. Es ist aber unmöglich, glaube ich, eine Diskussion immer zu übersetzen, weil das viel zu lang dauert und weil das den Fluss der Diskussion hängt. È chiaro, siete d'accordo, è possibile tradurre le relazioni, fare un riassunto come ha fatto il professor Valsecchi con quelle dal tedesco in italiano, io ho cercato di farlo dall'italiano in tedesco, però è quasi impossibile perché stronca la discussione se si vuole tradurre ogni contributo, ogni intervento nella discussione, perché questo ma quello che si potrebbe fare proprio è quello di fare delle piccole sintesi, riassunti iniziali in due. Sì, però la meta è sempre il bilinguismo, cioè che si fa la traduzione simultanea di inverso la traduzione simultanea non ha nessun valore perché sono argomenti tecnici, non possiamo trovare dei traduttori simultanei che abbiano la conoscenza è stato tremendo, è anzi una causa di gravi malintesi, per esempio al congresso di Milano l'anno scorso alle Alpi, dove venivano fuori delle cose da far drizzare i capelli, perché questi poveri traduttori, eccellenti traduttori per la fiera di Milano, naturalmente erano alle prese con una relazione di un francese sulla occupazione sulla Besiedlung der Alpen, dove si doveva sapere storia, genealogia, geografia, geologia, agricoltura, eccetera, eccetera. È impossibile, non si trova una persona che possa fare. Figuratevi oggi uno che avrebbe dovuto tradurre il referato, da un lato quello della signora Garns, l'altro giorno, oggi del professor Zaninelli. E praticamente non ha nessun valore, noi dobbiamo fidarci delle nostre forze e la meta è che ognuno, anche forzista, capisca l'altra lingua. Non è bisogno che lo sappia parlare, ma è bisogno che lo capisca. Altrimenti non si va avanti, credo. È andato andato abbastanza bene. Credo che questa è la cosa del problema linguistico. Tu hai chiesto se per i prossimi seminari sarà stata questa relazione in Italia. Ah, beh, questo non ho capito. Questa era l'idea del professor Prodi, che gli è venuto sentendo la relazione della signora Gans, e il giorno prima già mi era venuto sentendo la bellissima relazione di Hershey. Cosa? Si è ingolosito sentendo la relazione della signora. E io quando ho sentito quella del dottor Hershey sulla, quando ho sentito la relazione del dottor Hershey sulla sull'illuminismo in Svizzera, e oggi di nuovo posso dire sono tutte cose dove abbiamo tanto da imparare, e sarebbe bene, e naturalmente si vuole sempre rileggerlo, vedremo. Questa volta la situazione è anche un po' difficile, perché i relatori non lo sapevano che questa intenzione è adesso nuova, e io credo che nelle prossime riunioni si potrà già dire ai relatori che si ha l'intenzione di farlo. Lei è contraria? Sì. Ma lei lo pubblicherà anche in italiano qui? No, ma per esempio quella sulla Svizzera, das können Sie hier bei uns publizieren, doch das über die Schweiz. Dico. Mit einigen Ausnahmen, Ihre letzten Ausfälle gegen die eigene Schwester, die könnten Sie vielleicht etwas mildern, aber immerhin, da hätten Sie doch nichts dagegen. Aus Ihrer Dissertation würden Sie natürlich ungern etwas publizieren, bevor die Dissertation publiziert ist. Aber es war so gut und so interessant, dass es also schade wäre, wenn es verloren wäre. Aber darüber kann man nicht. Lei sarebbe pronta a pubblicare questa pubblicazione, la sua relazione di quaderno, perfettamente, un quaderno in cui per alcuni che pubblicano altrove si può fare un riferimento culturale. Perché alcuni di loro hanno già prenotato, sono contribuiti, e invece questo è referibile in... Io trovo che la formula, che la mia preoccupazione è che questo non è niente, come Sì, fare una presentazione che colleghi è vero in un quaderno sulle relazioni. Sì, questo è contestativo. Sì, lo so. Da parte mia chiederlo è drammatico. tu sei adesso fra poco fra i pensionati, allora no, ancora tempo purtroppo. Perché ancora sì, lo so. Sì, ma però non hai più la cattedra, puoi farti tu. Ad ogni modo cercheremo. L'idea è perché per rispondere al signor Marocco, l'idea è di pubblicarlo, perché anche noi abbiamo trovato che è peccato di parlarlo così al vento. Sì. E poi c'è anche il problema quanto della discussione dovrebbe essere. Noi appunto abbiamo qui tutta la registrazione e certamente con quella registrazione si farà qualche cosa. Adesso possiamo passare ai temi, suggerimenti, Themen vorschläge für weitere Seminare. Proposte per temi per altri seminari. Ja, Herr Schmidt. Ich glaube, es würde sich anbieten, nachdem die Akzente hier auf solche italienische Beziehungen und ein Humanismus zu bilden. Humanismus. Sì, l'umanesimo. Rapporti italo-tedeschi nelle fasi dell'umanesimo, che sarebbe interessante perché mette insieme medievisti e modernisti. Storia moderna è un tema molto difficile, c'è schwierig il tema. Weil es mit also und neue zusammen das ist ein weites Thema, aber es wäre eine Sache. Humanismus. Altri temi, ja. Il Begriff Nation. Das ist überall so bei der Nation. Nation ist ein solcher Weg vom Begriff. Ja, das ist auch von bedeutender, wenn man die Reden ausgibt, weil wir in der Schweiz überhaupt nicht machen. Ja. Und Italien ist ja noch einmal ein anderer Weg. Ja. Es gibt ja seine Arbeit, die ich übersetzt habe ins Deutsche, in der HZ erschienen ist, beziehungsweise vorher in der, nella tua rivista. Sì, anche nella historische Zeit. Cioè, über Nation und Nationalität. Es ist das ganze Nationalismus, es ist ja das ganze, die ganze Arbeit der schiedischen Forschungsinstitut in Köln, die sich ja gerade mit dem Wandel des Begriffs der Nation, mit dem ständigen Wandel des Begriffs der Nation. Wenn wir solche, ich halte das für sehr richtig, wenn wir solche semantische oder semantiologische oder wie soll ich sagen, Themen aufgreifen. Es wäre einerseits die Nation, es wäre andererseits etwa auch der Revolutionsbegriff zum Beispiel. Nicht? Wir haben es hier jetzt über die Aufklärung uns schon etwas unterhalten. Man kommt da immer wieder drauf, dass das auch Historismus wäre zum Beispiel. Der Historismus im Sinne Meinecke, der Storicismo im Sinne Croce sind zwei verschiedene Sachen. Il concetto dello Storicismo e del Historismus tedesco sono due cose che si toccano ma che sono diverse. Il famoso frainteso fra Meinecke e Croce o ancora dopo fra, per esempio a Halbach in una discussione fra Antoni da un lato e Englianoci e Böckmann dall'altro lato, perché storicismo è una cosa molto diversa dal historismo. Capite? Da treffen wir uns natürlich oder überschneiden wir uns sehr mit den verfassungsgeschichtlichen und rechtsgeschichtlichen Seminar von Herrn von den Frankfurtern und Modena, also von Butti und Esser, glaube ich, Esser, ja. Ja. Ja, das könnte auch interessant sein. Sind historiografisch. Ja. Ich bitte Sie schon von Kollegen Repken in der allerersten Sitzung vor einem Jahr vorgeschlagen, einmal über die Gasperi und Adenauer und etwas, also etwas Moderneres hineinzubekommen. Das wollte ich Ihnen kurz sagen. Kollege Corsini hat ja auch gesagt, man sollte mehr Storia Contemporanea, divenire più vicino alla Storia Contemporanea, allora si potrebbe ma veramente... Ma ci vorrebbe una tematica anche problematica. Fascismo, eccetera, è stato un po' sfruttato, molto sfruttato sul fascismo. E anche sì, ma questo era tutto un altro ambiente, e qui c'è il Trentino, naturalmente sarebbe anche una certa... Ma un tema problematico. Questo sarebbe interessato qualcosa come le regioni italiane, perché la Germania è un assetto, la Germania è un assetto, sì, tutte queste i cosiddetti eretici italiani e i movimenti ereticali, come si chiamano, francese non solo napoleonica, in Germania e in Italia. Sì, periodo rivoluzionario napoleonico e le sue conseguenze in Italia e Germania. Potrebbe essere interessante perché, grosso modo, è vero. Ma anche in Germania c'è la spinta, c'è tutto il code Napoleon. Prevale l'attrito in Prussia e in Austria, ma non nelle terre renane, lì prevale la spinta. Perfetto. Già, ma il problema italiano è speciale, c'è il periodo della neutralità. Appunto, perché tra l'altro loro non hanno un periodo della neutralità. Appunto. In quel periodo, tra l'altro, ci sono delle frange in Italia, no? Adesso sì. Parlo come Cina, un momento che sono studiato io. Sì. Che si dichiara a favore dell'intervento a fianco degli imperi centrali, quindi sono dei... Sì. Sì, il Timeo in questo modo. Cioè lo formulerebbe come? Interventismo in Italia e... Ma qui si chiama il periodo del principio della prima guerra mondiale, l'atteggiamento in Italia, l'Italia e le potenze centrali nel periodo tra... di fronte al principio della prima guerra mondiale. Ma non è esattamente, potrebbe essere inteso anche sul piano diplomatico, ma le correnti, no? Lei sentiva qualcosa del genere? Sì. Correnti politico... No, la formulazione si può poi fare dopo, ma è difficile di fare un... Ma non c'è bisogno che corrisponda sempre a tutti e due i paesi, ma diciamo... l'Italia è potenza centrale dal 1914, situazione interna, eccetera. Secondo me potrebbe essere invece lo studio delle conseguenze della perdita dell'interno politico. Ah, questo è interessante. Molto bene. Dice molto, naturalmente, sarebbe qui la... lo prendiamo nota, diciamo. Infrastruttura vitale, sì, ci sono i lavori di vari anni, ma quelli sono più come è avvenuto e non le conseguenze che ha avuto. Anche una domanda più generale, cioè voi ritenete, mi fa di capire tutte queste limitazioni, che diciamo la grandezza del problema sia stata centrata, cioè mi spiego, che problemi più specialistici sarebbero da studiare, problemi più ampi pure, cioè questo tema, se ripropongo la domanda in altro termini, questo tema dell'umanismo italiano e tedesco, vi è parso troppo ampio per una settimana di questo tipo e preferireste temi più concentrati, per esempio. Italiani sono per più concentrati. Se c'è evidente nel senso come argomento, quello dell'umanismo si poteva affrontare sotto un punto di vista filosofico, costituzionale, politico, diplomatico, e definirlo dice più specificamente. Esattamente. L'umanismo riforma nazionale. Esatto, l'umanismo, non so, il concetto della crisi è il concetto dell'autorità, posso dire. Comunque guardate che anche il tema basta i suoi vantaggi. Sì. Ma più di parole che non si voglia tanto tempo più ristretto quanto più definito. Esatto, non più ristretto. Quando è più ristretto c'è anche la difficoltà di trovare relatori. E gli altri che si interessino. E gli altri non si interessano. No, poi serve di più un tema vasto per dibattito di problemi, risponde di più agli scopi dei contatti, dello scambio di idee, della emergere di idee. Franco, mal auf die Kollegen deutscher Sprache, was Sie dazu sagen, ob Sie finden, dass es richtig war, hier ein so weit gefasstes Thema zu nehmen, oder ob es ein ob Sie der Ansicht sind, dass es besser wäre, schärfer umschriebene, schärfer definierte Themen zu haben. Was würden Sie dazu sagen? Ja, also Herr Herrsche. Ich glaube, wir haben hier ja einen guten Mittelweg gewählt, indem wir das Thema, wir haben ein sehr allgemeines Thema, aber dann gibt es diese Referate. Und das finde ich wichtig, denn wenn es nur dekommentieren, dann sei es nur später eben und ja, das ist, was die Kollegin auch gesagt hat. Also, ich würde das eigentlich ideal finden, vielleicht allgemeines Thema, aber dann ein bisschen Der Herrscher ha detto che credo che le lingue tedesche sono tutti d'accordo, che questa scelta è stata buona perché è stato scelto da un lato un tema molto vasto, ma poi con relazioni molto specifiche, perché se si sceglie un tema come tema troppo specifico rimane solo per un ristrettissimo gruppo di specialisti e non dà niente agli altri, o poco agli altri. Così. Forse per quello che riguardava tutto il mondo, anche tanto interessante una relazione che si mette dal punto di vista filosofico, per esempio non si è parlato di tanti punti della filosofia del greco, cioè si è parlato dell'umanismo italiano, perché anche questo che è un umanismo italiano, quindi chiaramente un po' di cantonato, per l'umanismo che viene con le due norme diverse, no? Der Leibniz Wolf, Lessing Kant, poi di Kant abbiamo parlato relativamente poco della famosa definizione. Sì, ha ragione. Siamo già nella storia del pensiero, è vero. Sì, però io trovo una cosa molto utile questa volta che abbiamo avuto, insomma, cose, relazioni di storia del pensiero, storia della religione, specialmente con il giansenismo, eccetera, di educazione della cultura come quella della dottoressa Klingenstein, delle correnti del pensiero al contrario con quella del professor De Mattei o quello vastissimo della professoressa Anoni, e poi anche benché dopo la base economica, che forse sarebbe stato per questioni organizzative, meglio di cominciare con il professor Salinelli, ma per ragioni. Vedete, i nostri seminari, come tutta l'opera umana, è sempre un compromesso fra l'idea e le esigenze pratiche, eccetera. Così, per le esigenze pratiche è stato necessario che il professor Salinelli parlasse come ultimo. Sarebbe certamente, in un certo senso, stato meglio se lui avesse potuto parlare come primo, perché questa è una certa base, un topao, nel senso cronologicamente la questione delle due, ma queste sono cose che richiedono la certezza. Riferimenti tecnici, però riferimenti della stessa che lei aveva proposto una volta sull'atteggiamento da parte della stampa austriaca sulla questione romana. Sì, e questo è naturalmente un tema specifico. Ma allargarlo, dice, la questione romana nel mondo medio europeo, reazioni dell'opinione pubblica, anche la stessa politica. Lì c'entra poi naturalmente. No, ecco, noi avevamo fatto ancora l'esame, della questione, cioè di come viene vista, ad esempio, oltre che in ambito della questione a Trento, come zone, confine, zone. Beh, vabbè, adesso per questo. Ci sarebbe naturalmente una cosa che credo sarebbe molto utile, anche i movimenti cattolici, politici, il cattolicesimo politico in Italia e in Germania. Centrum, Partito Popolare, Christlich Soziale, questo sarebbe anche in Svizzera, movimenti del cattolicesimo politico. No, io ho già detto Cristiano Sociali, in Austria Cristiano Sociali, poi il Partito Popolare Trentino, che è un partito in fondo italiano ma di forte matrice austriaca, germanica, con l'influsso del centro germanico dei cristiano sociali austriaci. Il turismo politico in Italia è è enorme, però il politico e sociale è un grande tema. È enorme, cronologicamente, sì. Definirlo meglio come sarebbe interessante vedere quello che può essere la preistoria, per esempio il cattolicesimo liberale nell'Ottocento. Sì. In Italia e in Germania, il suo Ramenè, Gioberti, Kettler, poi. Sì. E nell'Ottocento questo sarebbe. E poi il tema, è vero, del cattolicesimo politico, eccetera, bisogna definirlo cronologicamente, perché sennò diventa immenso. Ma sì, anche sociale, per esempio. Una questione concreta: quale influsso abbiano avuto i pensatori francesi, italiani, tedeschi, eccetera, su Rerum Novarum, per esempio? Qui è una cosa molto importante: fra Fulvio Sancta da un lato, Romolo Murri dall'altro, eccetera. Allora, quindi già avevo una serie di contributi molto concreti, più che lo vedrete tra 70 e 14. Tra 70 e 14, per esempio. Il cattolicesimo politico e sociale tra il 70 e il 14 in Italia e nel mondo germanico. Questo sarebbe un tema magnifico, credo. Sì, sarebbe un buon tema. Sì. Anche questo è anche una cosa che naturalmente non siamo tanti specialisti del marxismo, ma altro marxismo, c'è il lavoro, gli studi di ragionieri. Io adesso lo scolaro a Roma, che è stato anche da te, credo, e da ragionieri, che lavora sul socialdemocrazia austriaca e socialismo italiano nel periodo della prima guerra mondiale, prima e dopo. Certo sarebbe una cosa, però parliamoci chiaro, noi non siamo, da noi non ci sono tanti specialisti in questo campo nel nostro gruppo, e forse anche questo istituto qui non è proprio la sede più adatta. No, no, io credo che qualche anno ci si può arrivare. Sì, sì, l'anno sì, prossimo sì. Non possiamo fare tutto. Tutto, no? Certo. Non è che ci sarebbe un elenco troppo lungo. Ma sì, questo sì. Tema qui, tra due o tre anni, sì, sì, sì. Può essere maturo sufficiente. Probabilmente non è maturo per l'anno prossimo, dato lì c'è Agnelli eccetera, Arduino Agnelli, questo di caro non Das ist aber etwas, was zunächst die Mittelalter mit den Mandomen, die Folge der Industrialisierung, die da reinkommt. No, ma questo è proprio un tema che può essere aggredito, diciamo, dalla storia medievale, poi l'anno dopo per la storia moderna, poi l'anno dopo per il più caro, se appuntare potremmo, è uno di quei temi che possono essere portati avanti, e questo non sarebbe stato male. No, non sarebbe stato male. Perché prevedi anche una cosa da appuntare? No, tutti i temi indipendenti, no? Sì, sì, però... ma nessuno ci vieta che nel 75 il problema della società si è visto nell'età medievale, nel 76 per l'età moderna, nel 77 per questo risultato, per il secolo, mantenendo l'autonomia completa delle istituzioni. Credo che abbiamo un elenco, un catalogo nutritissimo, per cui dobbiamo essere grati alla collaborazione. E se posso, posso subito qui assumere anche, se tu mi permetti di parlare, non solo ringraziare in un primo luogo il professor Prodi e il dottor Olmi e il padre Butterini e tutti gli organizzatori che hanno fatto un lavoro magnifico, ma anzitutto anche ringraziare tutti voi per la vostra collaborazione e i suggerimenti che ci avete dato per tutto il tempo. David, ich jetzt noch auf Deutsch sagen, ich möchte nicht nur dem Herrn Rektor Prodi und Dr. Olmi und Padre Butterini sehr herzlich danken, sondern ich möchte Ihnen allen für Ihre Mitarbeit und Ihre Anregungen und Vorschläge und Bemerkungen, gerade jetzt zum Schluss auch wieder in den letzten, in diesem langen Vorschlagskatalog für die nächste, für unsere nächste Sitzung sehr herzlich danken, denn Sie haben uns für unsere Arbeit hier einen sehr wertvollen und nützlichen Beitrag geleistet. Danke. Per noi questa riunione è stata molto importante perché al di là dell'unitorio ci sembra di poter dire che l'idea che prima è un'idea teorica, di fare che accetta al Trento un punto di riferimento per un certo tipo di discorso, può essere realizzata. Questa è la sensazione che voi, forse per troppo bontà, non so, perché il timore è che siate stati troppo così generosi, insomma, guarda tutte le nostre mancanze, ma c'è la sensazione che valga la pena di andare avanti. Questo da parte mia è è tutto, insomma, per il comitato scientifico anche nel suo insieme, questo è un risultato molto, molto grosso, direi, la verifica, perché tutte le cose nel stato si possono utilizzare anche meglio. Quello che vorremmo è che appunto questo punto di riferimento magari non fosse limitato soltanto alle settimane, ma diventasse qualcosa diciamo di continuo, seppur nelle misure in cui possono essere queste cose. Insomma, noi cercheremo di andare avanti nella preparazione della biblioteca, purtroppo dal punto di vista del progetto di litio, come vanno le cose, ci vorranno almeno un paio d'anni prima che qui sopra possiamo avere la foresteria che pensiamo, e giù nel palco, la biblioteca, tutta, già, che pregustiamo. E intanto vengono le sedie a straio. Ma le sedie a straio possono esserci già l'anno prossimo. E altre cose già l'anno. In ogni caso, io penso che questa impresa può andare avanti proprio nella misura in cui diventa, come dico, un fatto continuo, cioè diventa un punto di riferimento per tutti noi, insomma, ecco, noi viviamo per Trento, ce l'abbiamo per forza, ma passando per Trento, fermandosi, dando suggerimenti, possiamo, credo, alimentare un certo giro, ecco, che poi sarà un certo giro di rapporti, di relazioni, che credo sarà poi la base delle future settimane, sostanzialmente. Grazie. Des Instituts, die uns diese Woche hier in Trento ermöglicht haben. Und natürlich auch an die Referenten, die gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so gegangen ist wie mir, aber es ist selten, dass die äußeren Umstände und alles in einer so glücklichen Weise zusammenkommt, wie es jetzt in dieser Woche hier in Trient war. Einmal die wirklich so großzügige und herzliche Aufnahme von Seiten des Instituts und die interessante Arbeit und freimütige Aussprache hier im Seminar und bis hin zu den so wunderschönen äußeren Bedingungen, unter denen das Seminar hier in der Villa in dieser herrlichen Landschaft stattgefunden hat. Und ich glaube, dafür darf ich wohl im Namen aller Teilnehmer, allen, die das ermöglicht haben, nochmals recht herzlich danken. Non c'è bisogno di tradurlo.